La zona è forse un sistema molto complesso di trabocchetti. Sono tutti mortali. Non so cosa succeda qui in assenza dell'uomo. Ma non appena arriva qualcuno, tutto si comincia a muovere. Le vecchie trappole scompaiono, ne appaiono di nuove. Posti prima sicuri diventano impraticabili. E il cammino si fa ora semplice e facile, ora intricato fino all'inverosimile. Non vi nascondo che ci sono stati casi in cui la gente è dovuta tornare indietro a mani vuote. Alcuni sono anche morti proprio sulla porta della stanza. Ma quello che succede non dipende dalla zona, dipende da noi. Fa passare i buoni e ai cattivi taglia la testa? No, non lo so. A me sembra che faccia passare solo quelli che non hanno più nessuna speranza. Non i cattivi o i buoni, ma gli infelici. Ma anche il più infelice morirebbe subito se non si comportasse come si deve. Boca chica. Cosmodrom. Boca chica. Cosmodrom. E allora bentornati, ben riatterrati quindi a Boca Chica Cosmodrom, la trasmissione che spinge il vostro antagonismo ben oltre la biosfera terrestre. E siamo alla puntata 9, ai pulsanti, leve, pulegge, pedivelle, a tutto quello che volete, fader, manopolette. Ai compressori, soprattutto Bimo e Cobol. Eccoci qua. Bimo, di cui abbiamo scoperto questa settimana il significato del... Ci avete messo un sacco. Un sacco, e io pure ero così vicino a quelle atmosfere, ma e a quei significati, ma non ci sono proprio arrivato. C'è arrivato Andromalis, che ci ha messi sulla buona strada, ma era stato sfidato, quindi era stato sfidato da te, che avevi detto Andro. L'ho sfidato io, non mi ricordo neanche. Una specie di piccola sfida a capire cosa era. Una sfida perdente in partenza, non è particolarmente non era difficile. Trasmettiamo da Forte, questa è radio, quindi è Radio Forte, da Forte Prenestino, e nel secondo corridoio sulla destra, nelle stanze introvertite del Forte, dove trovate la scritta illuminata stasera, accesa, rossa o nera. Boca Chica Cosmodrom, dicevo, il programma. Anche le altre sere, cioè. Non tutte le sere, no, solo quando c'è la diretta. Quando ci sono le dirette. Quando ci siamo noi, c'è. Esatto. E siamo alla puntata 9 e io vi ricordo, importantissimo, stasera scopriremo anche perché è molto stasera è più importante delle altre sere, il nostro Telegram a cui potete iscrivervi. Assolutamente. Che è chiocciola, vuoi dirlo tu? Boca Chica Cosmodrom, quindi chiocciola Boca Chica Cosmodrom, ci trovate lì. E sottofondo sentite della musica, ti piace questa musica? Ti ricorda qualcosa? Adesso ci torneremo. L'hai sentita all'inizio, pensa come sta già Bimo. L'hai sentita all'inizio, va bene, comunque insomma. Allora, che cosa abbiamo sentito? Prima intanto sul sito, che è anche il sito del Forte, quindi fortoprenestino.net, trovate tutte le informazioni sul Forte, tutte le informazioni della radio, perché c'è il canale della radio e i nostri fantastici podcast. Perché, come dicevamo prima, Null, compagno qui del Forte, è iscritto al nostro Telegram. Canale. No, non è iscritto Null, non è iscritto. Ah, forse sì, no, sì. Non è iscritto Null. Sì, oh, ok. Ah, sì, è vero. È il primo o il secondo. Assolutamente. E... Non ti offendere. Non hai ragione, colpa mia, è vero, sì, abbiamo perso il conto, tanti sono. Tra l'altro, l'altra settimana avevamo lanciato questo contest. Mandateci musica che metteremo in sottofondo. È andato benissimo, fantastico. Direi. È andato benissimo. Allora, che cosa abbiamo sentito all'inizio? Vuoi dirlo tu? Abbiamo sentito un altro estratto, perché non è la prima volta che lo sentiamo, dal secondo film di fantascienza più bello di tutti i tempi, secondo me. Io direi il primo, ma ok. Secondo me no, però secondo comunque piazzato molto bene. Stalker. Stalker, sì, quindi Tarkovsky del 79. Sì. E finiva. Vi risparmiamo la diatriba sul libro perché. Perché l'abbiamo già fatta. Quindi sarebbe un ripetersi. Esatto. No, allora, un film fantastico, film bellissimo. Chi per caso non ci sia imbattuto, non l'ha visto, ma se ne sarete in pochi. E se lo guardi, non si sbagli con il remake, che è comunque bello, con George Clooney di qualche anno fa. E, non malissimo. Scusate. Che è il primo film, il più bel film di fantascienza di tutti i tempi. Mi sto confondendo. Vabbè, allora non vi potete sbagliare, effettivamente. No, c'è solo Stalker. Leggetevi il libro e poi diteci chi ha ragione tra me e Bimo. Che io dico che il libro non è all'altezza del film, mentre lui dice assolutamente di sì. È diversamente bello. Dice, finiva la citazione con questa stanza che fa entrare forse, stanza che poi scoprirete di che cosa si tratta nella famosa zona, che fa forse entrare gli infelici e gli insoddisfatti. E questa sera in parte parleremo anche di infelici e insoddisfatti, un po' come l'abbiamo sempre fatto ogni volta che abbiamo affrontato il tema del cosmo anticapitalismo, perché in fondo c'è un'insoddisfazione verso un sistema di produzione, verso un modello di vita a cui il capitale ci sta abituando e al quale ci sta esponendo oggi con delle trasformazioni che lo vedranno presto nello spazio. Questo è il tema della nostra puntata, capitalismo, della nostra trasmissione, talmente, capitalismo spaziale. Talmente presto che sostanzialmente c'è già. Allora, un capitalismo spaziale che per prima cosa, lo abbiamo detto, vi invitiamo di nuovo a darvi a vedere i podcast, perché in qualche modo sono, come dicevamo, un po' propedeutici a capire di che cosa parliamo. Ma insomma, comunque, stiamo parlando del classico modo di produzione capitalistico che deve rinnovarsi ed espandersi. Espandersi, sì. E lo sta facendo attraverso gli astropreneur, e anche le nazioni che oggi si lanciano in una seconda conquista dello spazio, alla conquista appunto della dimensione cosiddetta extraatmosferica. Sì, abbiamo esplorato nelle puntate precedenti sia le motivazioni economiche che quelle geopolitiche. Esatto. Quindi sia quelle degli imprenditori spaziali che sono diventati tipo delle rockstar ormai per alcuni, ma anche le motivazioni che sono dietro gli investimenti ingentissimi che gli stati. È di questi giorni il fatto che anche l'ESA stia stanziando dei fondi per invogliare, per favorire la nascita di un'industria spaziale europea privata. Di un indotto, certo, di cui abbiamo parlato proprio la puntata scorsa e a cui abbiamo fatto ampiamente riferimento, parlando soprattutto anche della situazione italiana e anche della situazione internazionale, ma soprattutto dello scacchiere geopolitico. Ci siamo sporti in questi abissi, in questi grandi abissi. Quindi dicevamo insoddisfatti per qualche cosa, soprattutto per il fatto che ormai questa terra, questo nostro pianeta, questa sfera oblata sulla quale siamo poggiati, è in qualche modo oggi completamente mappata, conosciuta, riconosciuta. Possiamo fare delle preview di qualsiasi zona attraverso Google Map, e questo è bello, a volte è bello, però da un certo punto di vista fa forse un po' sparire, ci fa diventare un po' più cinici rispetto al nostro ambiente, potremmo dire. Sì, molto più cinici. Quante volte l'hai fatto tu che vai in vacanza ogni tanto, di andarti a vedere prima la strada dove andrai a dormire? Mai, tutta la mia vita. Perché quello è un po' rischio. È inutile partire. Quello è un po' il rischio, purtroppo. Infatti sì. Però comunque, se non lo facciamo per le vacanze, lo facciamo per ragioni più strumentali. Ovviamente ce l'abbiamo a disposizione come strumento. Però questo rende forse un po' il mondo anche psichicamente meno pericoloso, il che non è sempre bene, no? Affrontare delle sfide sane, sfide che non siano sfide che schiacciano l'altro, può essere assolutamente come dire, convogliante e edificante. Quindi ecco, scoprire tutto, avere tutto sotto il naso perché è già mappato, già conosciuto, non è sicuramente bello. E quindi stasera riscopriremo un po' delle pericolosità e dei misteri del nostro mondo. Lo rifaremo in bicicletta attraverso una pratica cosmo anticapitalista. puntata, anche se la puntata scorsa o due, se, due puntate fa, no, forse la scorsa, abbiamo avuto Piero della Critical sì, Mass. Esatto. Sì, la scorsa. Abbiamo avuto Piero della Critical Mass e abbiamo parlato di Critical Mass interplanetaria, che voglio ricordare che tra l'altro anche quest'anno si farà nella problematica città di Torino il 27, 28 e 29 maggio. Città diciamo un po' capostipide, un po' rappresentativa di una certa repressione tutta italiana che sì, stiamo conoscendo e sì, stiamo l'invito è quindi precipitarvi tutti su, sul noto sito della nota multinazionale americana e andare a vedere lì il percorso della Critical Mass. No, non avere sorprese. No, lo faremo. La Critical Mass si apre un varco sempre molto spontaneo, quindi lo faremo in maniera assolutamente non programmata, lo faremo tutti insieme in maniera assolutamente non programmata. Ti faccio però sentire una cosa, perché con Piero si era parlato di resistenza in bicicletta, resistenza all'essere fagocitati, all'essere abitacolati all'interno della tentacolare città. Era molto interessante. E allora ti parto con una citazione che sicuramente conoscerai. Roma è una città dove la vita è completamente stravolta, dove c'è il coprifuoco, il divieto di circolare in bicicletta, perché nei primi attacchi i partigiani usavano le biciclette, perciò il comando tedesco ha proibito, nessun civile può usare la bicicletta. E beh, era... chi era? L'avrai riconosciuto assolutamente, il famoso Alessandro Barbero, storico che ormai insomma imperversa, non lo conosci? Zero. Cavolo. Che ormai imperversa e che parlava appunto di Roma città aperta, di Roma città aperta, non del film, forse anche un po' del film, ma insomma fondamentalmente di quel periodo di occupazione tedesca in cui anche le biciclette erano un'arma, costituivano un problema e quindi erano represse, un po' come sta avvenendo in alcune città, soprattutto a Torino e in tante altre città. Beh, la bicicletta è sempre un po' repressa, è sempre sì, un pochino schiacciata dalla città, con questo parlavamo di Piero proprio l'altra volta. E poi Torino, che ha una tradizione di automobili. Ex Torino, tra l'altro, se le potesse sfasciare tutte le biciclette, non se lo farebbe asfaltarle. Esatto, non se lo farebbe sfuggire. Beh, allora stasera parleremo di ufociclismo. Proprio per restare un po' anche sulla lunga coda aperta da Piero la volta scorsa, e anche per rispondere a quella domanda che ci avevamo autofatti la volta scorsa, di cui sentivamo noi le esigenze e forse nessun altro, di spiegare un po' quello che è il situazionismo e quello che è la psicogeografia. Perché? Perché in realtà tante delle pratiche cosmo-anticapitaliste di cui abbiamo parlato presuppongono il fatto di essere transitati per un periodo storico che ha conosciuto il situazionismo soprattutto. Noi ci ostiniamo a chiamare situazionismo, i situazionisti non avrebbero mai chiamato situazionismo perché il situazionismo non si riconosce come movimento, diciamo, quindi i situazionisti, coloro che si identificano... È un po' come Fight Club. Esatto, sì, forse sì. Che quindi anche Fight Club ha delle radici... Assolutamente. E quindi ufociclismo che nasce già da una pratica cosmo-anticapitalistica di cui abbiamo parlato, che è il MIR, quindi gli ufologi radicali, negli anni 90 lì nasce. Io vi invito ad andare per varie ragioni ad andare a vedervi un sito molto bello che è l'archivio Grafton 9, che è praticamente al proprio interno ha una serie di materiali sui movimenti degli anni 90 e anche più vecchi, quindi anche anni 80, anni 70, e tra cui ci sono anche le riviste di MIR, e c'è la seconda rivista di MIR del 98 in cui per la prima volta si parla di ufociclismo, ed è un ufociclismo completamente diverso da quello che adesso andremo a esplorare. È così diverso che, io lo dicevo l'altra volta, no? In qualche modo si rifà al cosiddetto culto del cargo, l'inizio dell'ufociclismo. Ah sì? Ah sì, cioè nel senso che le biciclette... Io sono un ufociclista tardo, quindi... Hai conosciuto solo la generazione ultima. Per me sì, è l'ultima generazione, quindi le mie radici ufociclistiche mi sono completamente ignote. E cosa facevano gli ufociclisti? I ufociclisti, proprio come i cultori del cargo, imitavano gli oggetti volanti non identificati, le luci, gli oggetti volanti UFO, e lo facevano con le biciclette, attrezzando le bici con luci e sfrecciando nella città proprio come l'oggetto che molte virgolette e materialisticamente veneravano. Allora, siccome la volta scorsa ci siamo sentiti si è un po' persa questa verve, mi pare questa sì l'ufocismo è diventato questo di diventare indefiniti, sì ma adesso si venera l'indefinito, venera in senso sempre molto materialistico. E siccome l'altra volta però avevamo sentito un pezzo dal famoso documentario che citiamo sempre, Gli extraterrestri torneranno, del culto del cargo, io l'ho riportato, anche se la volta scorsa l'avevo portato. E quest- la, però lo mandiamo a velocità triplicata, perché abbiamo sentito già tre volte, sì, quindi lo conoscete già, velocissimo. E questo è il culto del cargo. Nella seconda guerra mondiale, i piloti militari americani atterrarono su alcune remote isole del Pacifico, tagliate fuori dal resto del mondo. Vi costruirono basi di rifornimento e campi d'atterraggio avanzati. Alla fine della guerra se ne tornarono a casa. Ma a questo punto accadde qualcosa di strano. Gli indigeni, che vivevano ancora all'età della pietra, costruirono dei feticci di paglia e bambù simili ad aerei e delle primitive piste d'atterraggio. Avevano scambiato gli stranieri per divinità e speravano in questo modo di richiamare i loro vascelli celesti con il cargo, il loro carico di tesori meravigliosi e potenti, viveri, utensili ed armi che non avevano mai visto. Questi veicoli aerei avevano atterrato innumerevoli volte fra nubi di polvere e fragore. Gli stranieri dalla pelle bianca non andavano mai a caccia, eppure avevano sempre da mangiare. Essi venivano dal cielo e quindi dovevano essere dei, dei delle stelle. Gli indigeni attendevano pazientemente il ritorno degli dei bianchi, notte e giorno. Uomini scelti della tribù guardavano incessantemente il cielo, sacrificavano vittime al fuoco, vegliavano e speravano, ma gli dei non tornarono. Quanto vi abbiamo mostrato è la nascita di una religione, il culto del cargo. Fu davvero questa l'origine delle leggende e delle religioni primitive? Almeno certi miti nacquero in seguito all'incontro dei nostri antenati con degli esseri extraterrestri tecnicamente assai progrediti. Questo era Gli extraterrestri torneranno, ovvero un documentario del, se non sbaglio, proprio di fine degli anni 70, 79, non me lo sono segnato, è bellissimo, lo trovate su bellissimo anche così veloce. Sì. Forse addirittura migliore. Migliore. Allora, un po' mi è dispiaciuto accelerarlo, anche se appunto ve lo potete sentire a velocità due volte a velocità normale nella puntata precedente, perché la voce maschile, la voce femminile non so di chi sia, ma la voce maschile è di Nando Gazzolo, questa bellissima voce di Nando Gazzolo che io apprezzo molto come doppiatore, quindi è un peccato. Beh, però struggerla anche, così. Anche velocizzato. Sarà capito. La prossima puntata rallenteremo Nando Gazzolo, va bene. Solo Nando Gazzolo. Solo Nando Gazzolo. Allora, avrete capito, fondamentalmente il flufociclismo, a cui tra poco arriveremo, parte da un'imitazione del, come dire, dell'oggetto che in qualche modo a cui ambisce il culto somigliare, dell'UFO, somigliare. Il culto dell'UFO, sì, che è comunque una pratica evidentemente antropologica rinomata e già utilizzata appunto dai cultori del cargo, come il documentario spiega. E a questo punto io vi faccio sentire un primo brano. Back in the town. Era Kesioton for the Painful Alone. Tu, Bimo, mi dicevi che lo conosci. Della sì, sì. Personaggio sì, sì, che ha avuto un po' di successo un po' di anni fa. Mi sono imbattuto anch'io qualche anno fa. Scena 8-bit, micro musicale molto molto bello. E anche scena lo-fi in realtà. E quindi siamo sempre a Boca Chica Cosmodrom, se, trasmettiamo sempre da Radio Forte, sempre dentro Forte Prenestina. Stiamo parlando di capitalismo spaziale. Esatto, non abbiamo cambiato né il nome della trasmissione né il posto. Nel frattempo, no, frattempo. E abbiamo accennato a quello che è fondamentalmente il tema della serata, che sarà soprattutto legato a, alle culture cosmo-anticapitaliste e nello specifico all'ufociclismo. Bene, allora, ci siamo quindi, io direi che culto partiamo. Dell'UFO, abbiamo detto. Siamo partiti al culto dell'UFO, ma dobbiamo prima fare questa lunga introduzione, lunga o breve che sia, su cos'è il situazionismo e che cosa sono gli psicogeografi. E quindi, come sempre, sigla della conquista dello spazio. E lo dicevamo, quindi a rigore non si dovrebbe parlare di situazionismo, perché Guy Debord si arriverebbe molto e direbbe che il situazionismo non è un movimento e quindi non si può parlare di situazionismo, ma al limite si può parlare di situazionisti. È un gruppo di persone che fanno, che convergono ad un certo punto intorno a una serie di pratiche, siamo nella Francia della fine degli anni 50 fondamentalmente, una serie di pratiche che poi diverranno centrali per tutta una serie di movimenti, tra cui tanti movimenti cosmo-anticapitalisti che abbiamo incontrato, ad esempio gli astronauti autonomi, ma anche la chiesa del Subgenius, sicuramente i MIR, insomma tanti movimenti che non solo fanno parte della schiera cosmo-anticapitalista, ma fanno in generale parte delle controculture e delle culture antagoniste. E in questo viaggio, che si fermerà col situazionismo, arriveremo fino al punk, quindi fondamentalmente sono tante le cose da dire. E intanto, come dire, il situazionismo parte, come dicevo, da tanti personaggi, di cui forse il più famoso resta Guy Debord, che è quello che è colui che poi scrive La società dello spettacolo, il libro più, lo dico questa parola che a molti non piace, ma iconico di tutta quella vicenda e di tutta quella situazione. Metà degli anni 50, dicevamo, si parte dalla cosiddetta internazionale elettrista, sul quale però sul quale però non ci potremmo soffermare più di tanto, perché sennò faremo delle regressioni infinite. Si tratta soprattutto di avanguardie novecentesche, diciamo, soprattutto che provengono dal surrealismo, dal dadaismo, e che convergono sostanzialmente in un movimento nuovo, autonomo, che appunto poi prenderà il nome innaturale di situazionismo. Molto diverso, molto lontano da quelle che sono in Francia, parlavamo da quelle che sono le atmosfere, per esempio, di Breton, legato al surrealismo e anche legato a che resterà legato fino a che poi se ne allontanerà il PCF, anche se poi in realtà è il Partito Comunista Francese, anche se poi in realtà come definire i situazionisti, sono dei marxisti, soprattutto nella figura di Debord c'è tanto marxismo, c'è tanto Marx, vogliamo dire forse più anarco-marxisti che non proprio dei marxisti rigorosi, o comunque un'eresia in qualche modo. Un'eresia che perché? Perché soprattutto rispetto all'analisi marxista entra in gioco un fattore nuovo, che è quello della rivoluzione immanente o dell'immediatismo rivoluzionario. Beh, non si aspira più necessariamente alla presa del Palazzo d'Inverno, quindi alla rivoluzione così come bolscevichi l'avevano immaginata e come era stata immaginata anche in tanti altri passati, non necessariamente dai movimenti dei lavoratori, ma si cominciano a creare, come dire, situazioni da cui poi prende anche il nome, tutti i situazionisti prendono il nome appunto dal fatto di situazioni che potrebbero anche essere definite, se vogliamo, come giochi, ma fondamentalmente come giochi politici, che servono a dare proprio un senso diverso al territorio, a quel territorio che noi tutti i giorni attraversiamo, che è il territorio antropico, quello delle città. E si parla infatti anche di, soprattutto uno dei concetti che emergerà sarà quello di urbanesimo unitario. Tu ne sai nulla, Bimo, che ti vedo niente, sto combattendo col microfono. Esatto. Non collabora. Siccome ti vedevo combattere, allora ti volevo dire dentro se è stato. Vabbè, niente, okay. Se stavo attento. Vabbè, urbanesimo unitario, che in realtà significa progettare o vivere, attraversare le città, quindi lo spazio antropico, in una maniera multidisciplinare, interdisciplinare, se vogliamo, e, utilizzando proprio questi giochi, questa invenzione di situazioni come una continua rivoluzione del quotidiano, una sorta di critica della vita quotidiana. D'altro canto, pochi anni prima, nel 47, circa 10 anni prima, c'era stato lo scritto importantissimo Critica della vita quotidiana di Lefebvre, di cui mi piacerebbe tanto parlarvi, ma anche lì avremo una regressione infinita. Lefebvre, personaggio centrale, leggetevi i due volumi della critica della vita quotidiana di Lefebvre, che del Lefebvre del 47, di cui evidentemente i situazionisti erano molto golosi e se ne cibarono. Quindi una sorta di critica della vita quotidiana attraverso la costruzione di situazioni che deturnano. Questo è un altro concetto che i situazionisti portano dentro, il deturnamento, che non è una questione, non è un fatto nuovo, ma è un fatto nuovo se lo si analizza dal punto di vista politico, cioè la trasformazione di qualcosa di già esistente in qualcosa da significato completamente diverso. E uno di questi giochi che viene introdotto dai situazionisti è proprio il gioco della psicogeografia, non ha chiamato gioco, comunque chiamata come situazione, che è quella della psicogeografia. Allora, per capire che cos'è la psicogeografia, patto che abbiate capito cos'è il situazionismo. Tu hai capito cos'è il situazionismo? Sì. Ah, ok, quindi diciamo ti uso come beta tester. Esatto, diciamo così. Adesso, sì. Guarda, quando mi vedi vitreo c'è qualcosa che non va. Quando ti vedo che smanipoli con i manetti. No, quello c'è il microfono continua a muoversi. Oggi va bene. È incredibile, non sta fermo. Va bene. È impossibile, non so che cosa sia successo qui. E quindi uno dei giochi più riconosciuti, una delle situazioni più riconosciute è sicuramente quella della psicogeografia, termine, beh, insomma, abbastanza molto bello trovo. No? Molto affascinante, che evoca anche in chi non sa di che cosa parliamo un sacco di immagini. Sì, è vero, è molto evocativo. La psicogeografia in realtà esiste tuttora, è un movimento che ci siamo portati dalla fine degli anni 50 ad oggi, perché appunto è uno dei mattoncini che più spesso troviamo all'interno delle culture cosmo antagoniste, ma anche delle controculture in generale. E qualcuno dice anche nei meccanismi pubblicitari della comunicazione contemporanea, cosa che spesso viene attribuita ai situazionisti, a cosa a cui io non credo, perché in realtà già il surrealismo aveva espresso come avanguardia in quel senso tutto quello che poi troveremo dentro alla comunicazione veloce, episodica delle pubblicità. Loro si riappropriano anche di questa pratica, ma non sono quelli coloro che se la inventano. Ma proprio il concetto di creare delle situazioni, secondo me, è un concetto molto pubblicitario. Un altro tipo di situazioni, però volendo, allora tutte le situazioni sono create, se vogliamo, è un concetto espandibile all'infinito. La chiave di scarto sta nel fatto che i situazionisti intendono la creazione di situazioni come una questione politica, cioè come trasformazione della vita quotidiana. Anche la pubblicità, anche la pubblicità ti vuole trasformare la vita quotidiana, esatto, facendoti comprare le sue cose, esatto, e creando delle situazioni assolutamente, su questo è assolutamente fugaci in qualche modo, ma ragione. Permanenti per altri versi. Ma comunque il situazionismo, dal surrealismo, dal dadaismo, porta con sé tutta quella che sono le suggestioni intorno all'inconscio. Fondamentalmente la scrittura automatica del surrealismo, per esempio, è una cosa molto simile alla psicogeografia, che è in realtà una sorta di deriva, diciamo, incosciente all'interno della città, per sorprendersi e per cogliere degli elementi che cosciamente generalmente ci sfuggono all'interno della nostra città. Si parlava a Bibo, dicevo che in realtà ti stai adattando anche tu un po' all'atmosfera 8-bit, perché beh, anche sì, le tue sì. scelte musicali, sì, vuoi sì, dirci sì, qualcosa sì, tu? Sì, sì. Questi in realtà sono una band inesistente della fine degli anni 90, Los Samplers, che in realtà sono una delle tantissime incarnazioni di Uwe Schmidt, che abbiamo già sentito esibirsi in una cover dei Kraftwerk qualche tempo fa, nel caso particolare il suo pseudonimo era Signor Coconut. Ok, perfetto, benissimo. Parlavamo, siamo sempre a Boca Chica Cosmodron, stiamo parlando di situazionismo e di psicogeografia, ci siamo un po' addentrati nel situazionismo per arrivare a uno dei giochi, una delle costruzioni di situazioni, appunto, del situazionismo. Ahimè, non chiamatelo situazionismo, mi raccomando, mai chiamateli situazionisti. Se è il 1953 e due lettristi che appunto si avvicinano al movimento del situazionismo, che sono Gilles Ivan e Guy Debord, inventano, o per primi comunque procedono alla creazione di questa deriva all'interno dello spazio antropico della città, e così fondano quello che appunto poi sarà la costruzione delle situazioni, quindi sarà il gioco psicogeografico fondamentalmente. Inizialmente la psicogeografia non ha nulla a che fare con quello che noi potremmo pensare, cioè con lo spazio urbano vero e proprio, quindi con le città, con l'architettura, cosa che poi è stata un'acquisizione molto più recente. Ha a che fare con gli incontri casuali. E quindi forse ciò che in qualche modo viene rivendicato con la psicogeografia iniziale delle origini, e quindi nel 53 dicevamo, è proprio questa mancanza forse di rapporti interpersonali. Quando poi Guy Debord molto più tardi scriverà La società dello spettacolo, in cui tutti pensano, chi non ha letto pensa che in realtà si parli di televisione, di radio, invece no, in realtà non si parla di queste cose, non c'entra niente, anche perché sennò, perché Guy Debord che faceva i movimenti che non erano movimenti non poteva fare un libro con un titolo coerente. No. Lo spettacolo per Guy Debord è un'altra cosa, in realtà sono i rapporti umani intermediati dalle merci, e questo lo deriva ovviamente da Marx, dalle analisi marxiste, però esposte, trasposte ad un livello tale che diventano spettacolari. E forse quindi questa tensione spettacolare e quindi fantasmatica e quindi sempre meno... Cosa avrebbe detto Guy Debord di Facebook a questo proposito? Chissà, si è ammazzato molto prima, quindi non lo sapremo mai, ma si è perso un sacco di cose. Sai, molti ritengono che Guy Debord sia tra l'altro il meno situazionista dei situazionisti, proprio che è un po' pesante. vedetevi i suoi film soprattutto, e poi ne riparliamo. Film lettristi fondamentalmente quelli di Guy Debord, cioè tutta una serie di tecniche che verranno sperimentate prima nel lettrismo e che poi Guy Debord riprenderanno i suoi film interessanti, però, e che poi approderanno nella pubblicità probabilmente. non lo dire più, Bimo, perché se c'è qualche psicogeografo in ascolto poi se la prende e ci viene a mangiare, e se ci incontriamo per caso mi ammazza. Esatto, incontri casuali. Beh, allora, quindi diciamo, le influenze sull'ambiente urbano, cosa a cui vogliamo arrivare, perché la cosa che ci interessa, arriveranno molto molto dopo. Però Gilles Ivan e Guy Debord hanno idee molto diverse su quella che dovrà essere la psicogeografia. All'inizio vanno d'accordo, all'inizio girano per la città, si ubriacano, stanno in giro settimane, fanno questa deriva infinita trovandosi in luoghi che non conoscono e conoscendo persone che ovviamente non hanno mai visto e incontrato, cercando di entrarci in contatto, quindi per recuperare evidentemente questa dimensione del rapporto umano non mediato da merci fondamentalmente. Però poi Guy Debord comincia a rendersi conto che le sue derive in qualche modo potrebbero assumere un connotato più scientifico, e quindi inizia a rivolgersi più all'architettura e agli spazi urbani veri e propri. Quindi è lì che comincia a nascere, un po' di anni dopo, l'idea che l'architettura ovviamente ha un impatto emotivo sugli esseri che lo attraversano, e quindi la città può essere guardata non solo come un insieme di vie, di toponimie, di piazze, edifici e di arredi urbani, ma può essere visto come un insieme di emozioni che si cristallizzano all'interno di zone che lui poi chiamerà UDA, unità d'ambiance, concetto ricordato molto importante perché poi tornerà anche nell'ufociclismo. E Jules Verne invece in realtà rimane più legato a una dimensione tra virgolette mitopoietica e magica della deriva psicogeografica, più legata sicuramente al intercettare quelli che sono i movimenti umani più loschi, più strani, più misteriosi, e quindi è un, come dire, ad una, più un viaggiatore, sì un esploratore in questo senso, meno scienziato, meno con la lente di ingrandimento, e più un antropologo partecipativo, ecco. Si è ammazzato anche lui? Lui finisce in realtà molto prima di Guy Debord, dentro, diciamo, impazzisce, diciamo, questo suo modo di intendere la città lo fa ben presto impazzire, o forse chissà, poi rinsavire, chissà. Esatto, impazzire è un concetto strano, e però i due comunque intraprendono strade completamente diverse, e nell'immaginario collettivo quello che a noi arriva fondamentalmente è la visione debordiana della psicogeografia, quindi di una psicogeografia che è una scienza esatta o meno, o comunque lo studio degli effetti precisi dell'ambiente geografico sul nostro inconscio e sul nostro conscio e inconscio, e quindi come cambiano i comportamenti degli individui, come si trasformano man mano che attraversano degli ambienti antropici. E questo è molto interessante, perché noi molto spesso, proprio perché la città, la definizione che abbiamo di città è una definizione asettica, rischiamo appunto di vedere la città come un insieme di oggetti e basta, e non capire invece quelle che sono, più che per capire, anche percepire, forse. Percepire, sì, assolutamente. Quelle che sono le atmosfere che ci inducono. E le atmosfere sono, non sono mai una questione, come dire, non voluta o comunque casuale. Molto spesso le atmosfere possono essere utilizzate assolutamente come arma psicologica per convogliare, per creare consenso, per creare non consenso, per creare emozioni sbagliate, latenti, esatto. Coloro che le attraversano, quindi la città diventa una, visto dal punto di vista emozionale, emotivo, atmosferico, posso diventa un ordigno politico. Sarà io dirò sempre la stessa cosa per tutta la serata, quindi lo dico, anche la pubblicità funziona in questo modo in realtà, no? Questo ma se la metti così tutto funziona, ma la pubblicità lo fa più lucidamente, cioè è come una vernice, sì. Uno strato che viene applicato ad un luogo si chiama consenso, sì, assolutamente. Senso o anche indurre una sensazione, un'esigenza, con l'unica differenza, un'emozione, assolutamente, però questo è anche un film, con l'unica differenza che la città nel suo complesso lo fa a volte in maniera assolutamente accidentale e casuale, perché una serie di elementi si mettono assieme casualmente e producono un certo tipo di, certo, effetto. A volte lo fa politicamente, consapevolmente, ma senza passare come spot pubblicitario, facendoci credere di vivere dentro un'atmosfera che, come dire, si genera dalle nostre emozioni, dai nostri pareri e dalle nostre visioni, ma che invece in realtà è il frutto combinato di quello che noi siamo e di quello che l'ambiente è, certo, esterno è. E questo è secondo me uno scarto importante rispetto al fatto che tutto poi in fondo crea emozioni, un film, una canzone. Sì, la pubblicità diciamo crea emozioni in modo completamente artificiale per un fine molto ben definito, e quindi è un pochino il distillato, no, di questo, potrebbe essere visto in questo modo. Sì. Beh, insomma, noi da questa prima esperienza ci portiamo sicuramente a casa, come dicevo, il concetto che dicevo prima, dell'UDA, l'unità d'ambiance, perché l'unità d'ambiance è in realtà l'unità minima di spazio continuo che interessa un certo tipo di atmosfera. Quindi un certo tipo di atmosfera si distribuisce su un certo tipo di spazio, e da questo punto di vista, analizzando, noi ci accorgiamo che c'è continuità atmosferica da questo punto di vista, e questa area così circoscritta, così descritta, è per Guy Debord un'UDA, una unità d'ambianza. Ed è importante perché le unità di ambianze, una volta individuate, una volta scoperte, sono tra loro contrapponibili. Noi ci possiamo accorgere che nella città ci sono atmosfere positive, come ce ne possono essere atmosfere negative, e cominciare a giocare una partita politica su cosa a noi ci interessa che la città esprima e quali sono le emozioni che la città dovrebbe esprimerci. Allargare le zone che inducono sensazioni positive. Sì, poi bisogna capire che cosa significa positivo, perché per uno speculatore positivo può voler dire, uno speculatore edilizio può voler dire... Ma lui è il nemico, quindi... Sì, va, appunto, no, positive... il positivo... Ho capito adesso che dici, sì. Perché tu ne fai un bene universale, diciamo. No, per l'osservatore che saremmo noi, cioè soggettivamente positivo. Diciamo che cambia l'osservatore, cambiano i valori. Esatto, e la cosa interessante è che probabilmente le UDA, appunto, per quello che stavamo dicendo, potrebbero essere diverse a seconda del... Ma proprio il fatto che sono diverse ci spinge, cioè proprio questa capacità di cogliere un differenziale di UDA dovrebbe spingerci a ritenere che lì dove le UDA esprimono delle emozioni negative, noi dovremmo intervenire politicamente, per, essendo la nostra, il nostro spazio antropico, per trasformarle. Volevo solo... No, però io invece, vedi, ci siamo scambiati i ruoli, nel senso che io stavo, invece dicevo una cosa diversa, lo speculatore... avrà delle UDA diverse rispetto al lupo ciclista. Ma no, lo speculatore potrebbe essere, per lui potrebbe essere positiva un'UDA che in qualche modo tiene le emozioni, comprime le emozioni, abbassa il livello, per esempio abbassa il livello conflittuale delle emozioni. Perché avendo magari creato una zona abitabile tremenda, con atmosfere tremende, perché gli arredi urbani, perché le infrastrutture e qualsiasi altra cosa ci viene in mente è tremenda, sono cose, condizioni che tutti conosciamo nelle nostre città, potrebbe essere quello per lui positivo, perché in realtà gli è costato poco crearla. Quindi quando lui la percorre è felicissimo, è felice. Si guarda in tasca ed è felice. Adesso non volevo drammatizzare così, è proprio per non sdrammatizzare ti faccio una cosa pesantissima. Indicherò di volta in volta la direzione dalla quale sarà pericoloso allontanarsi. Il primo punto di riferimento è quello, l'ultimo palo. Vada per primo, professore. Tocca a lei adesso. Cerchi di ricalcarne le orme. Ecco, là c'è la vostra stanza. Ma ce ne vorrà. Cosa? Lo dice per rialzare il prezzo? Se è a portata di mano. Già, ma servirebbe una mano molto lunga. E la nostra non lo è. Si passa di lì? Sì, si sale e si entra. Ma noi non ci andremo direttamente. Dobbiamo fare il giro. Perché fare il giro? Nella zona la strada diretta non è la più corta. Più si allunga e meno si rischia. Perché? Se si va dritto cos'è? Mortale? L'ha già detto, è pericoloso. E facendo il giro no? È pericoloso lo stesso, ma insisto, di qui no. Quante cose nessuno fa. Io per conto mio... Che cosa vorrebbe fare? Fare tutto questo giro tondo mentre è a portata di mano. Di qui è rischioso, di lì è pericoloso. È un'esagerazione. Sa che le dico, si sta comportando con troppa leggerezza. Questa sera l'avevo detto, abbiamo saccheggiato Stalker. Tra l'altro tu hai avuto un'illuminazione. Sì, assolutamente. Non mentre c'è l'ascoltavi. La psicogeografia e Stalker sono assolutamente la stessa cosa. Ma infatti tantissimi appassionati di psicogeografia o comunque collettivi o anche singoli che hanno utilizzato la psicogeografia come strumento di analisi del territorio urbano si sono spesso ispirati soprattutto per la deriva a quello che è il film Stalker. Stalker è proprio una deriva psicogeografica a tutti gli effetti, e non credo che Tarkovsky e quantomeno i fratelli che hanno scritto il libro conoscessero la psicogeografia, almeno non mi risulta, però evidentemente è un'esigenza. Però come avete capito soprattutto dalla citazione cinematografica di Stalker, noi abbiamo una riscoperta del mistero. La zona in Stalker è una zona non più mappata, che ha perso le coordinate della mappa fondamentalmente, quindi le coordinate della riconoscibilità, e riacquisisce quel livello di mistero che è il mistero del viaggiatore, di colui che deve scoprire e che può scoprire qualche cosa diverso rispetto ad una zona che mappata invece si riproduce cristallizzata, sempre identica a se stessa. Sì, la zona non è mai identica a se stessa. La zona in questo caso non è mai identica a se stessa, infatti, perché appunto perché ha perso i connotati bidimensionali della mappa. Se vogliamo, lo spazio ha anche questa caratteristica in cui niente è fermo e tutto si muove, e quindi niente occupa sempre la stessa posizione. Quindi se io voglio arrivare per esempio su Marte, non devo dirigermi nella posizione in cui Marte è in questo momento, ma verso una direzione in cui Marte non è in questo momento, ma dove sarà sperabilmente. Quindi questa situazione di continuo con una geodetica, tra l'altro, eh sì, tra l'altro, neanche con una linea retta. Esatto. C'è qualcosa nello spazio anche di questa mutevolezza, no? Dello spazio. Beh, non a caso l'ufociclismo a cui dobbiamo arrivare, ce la facciamo, che stiamo allungando tantissimo, ma è giusto perché è un argomento in realtà pieno di forse dovevamo farne due puntate, vabbè. Vabbè, c'è no, sempre tempo, sempre in tempo. Realtà possiamo arrenderci tra un po' all'evidenza. E stavo dicendo, sì, e quindi lo spazio che riacquisisce una dimensione misteriosa proprio perché perde i connotati cristallizzati della bidimensionalità, e qui già c'è un qualcosa di politico, no? C'è il reset dello spazio, perché lo spazio, una volta lo spazio urbano, soprattutto una volta che non è definitivamente connotato, può essere costruito a nostra immagine e somiglianza, certo. O nostra immagine e somiglianza un po' esagerato, comunque secondo i nostri desideri e non secondo le atmosfere che belle e fatte noi troviamo quando attraversiamo l'ambiente. Sì, possiamo trovare dello spazio, in poche parole, in una situazione che almeno a prima vista spazio non dà. Sì, tra l'altro c'è la sparizione anche di quelli che sono i confini tradizionali delle strade, delle piazze, delle rotonde. Ti ricordi la volta scorsa parlavamo del famoso Le rotonde, abitacolamento. Il ciclista odia le rotonde. No, gli ufociclisti le amano, ma anche la critica al massimo. Poi questo non abbiamo mai parlato. Il, però. Il ciclista che invece convive con le automobili odia le rotonde con tutte le sue forze. Sì, la critica al massa lavora sulla massa critica, quindi esatto. È un po' diversa. Comunque la psicogeografia è anche contro sicuramente l'opposizione di confini, quella logica matrioska che vedevamo la volta scorsa nel processo dell'abitacolamento, no? E noi viviamo dentro una casa, usciamo, ci infiliamo dentro una macchina, usciamo dalla macchina, ci infiliamo dentro un ufficio, per poi rinfilarci dentro la macchina, per poi rinfilarci dentro casa. Quindi spazio che diventa sempre più cosa aliena, ostile a noi, perché noi siamo sempre più iscritti all'interno di una macchina, di scatolette nello spazio pubblico, la macchina o i mezzi non pubblici. Condividiamo l'aria con nessuno. E non abbiamo più esattamente quel rapporto di consiliare che invece gli psicogeografi De Beau e il suo compagno iniziano a cercare nella loro attività psicogeografica. Quindi ecco che ritorna anche lì dove più scientificamente la psicogeografia si dedica allo spazio urbano, l'esigenza, ma poi sempre lì siamo, della ricostruzione di quei rapporti umani, che le merci, che la interposizione, intrapposizione, l'inframezzo della merce ha completamente distrutto. Ora, noi abbiamo fatto proprio un assunto super veloce di quella che è la psicogeografia. Tra l'altro, la nostra specialità è assunto super veloce. Super veloce. E, tra l'altro, esistono ancora organizzazioni, per esempio c'è l'organizzazione romana dell'Associazione Psicogeografica Romana, l'APR, che fa psicogeografia attualmente, quindi se andate sui loro siti, sui loro social, trovate esempi di psicogeografia, ma soprattutto vi potete comprare un bellissimo libro che si chiama Internazionale Situazionista 1958-1969, che è la raccolta della Naudi, bellissimo libro, rilegato, fantastico, che è un libro che raccoglie tutti i bollettini dell'internazionale situazionista tra il 58 appunto e il 69. Nelle ultimissime pagine troverete uno scritto di cui abbiamo parlato tra l'altro nella primissima puntata, quello di Edoardo Rote, che è La conquista dello spazio nel tempo del potere, che è proprio nel 69, subito dopo l'allunaggio, in cui accennavamo alla possibilità che Edoardo Rote fosse assolutamente il primo cosmo anticapitalista della storia, proprio perché in qualche modo super consapevolmente, prima di lui ce ne sono sicuramente gli altri, ma che lo facevano in maniera un po' meno consapevolmente, attua una critica situazionista e una critica marxista alla conquista dello spazio. Poi c'è sicuramente il manuale di Daniele Vasquez di psicogeografia, che è un testo assolutamente necessario per capire un po' quella che è l'evoluzione, quelle che sono le tecniche psicogeografiche, soprattutto delle origini. E anche ufociclismo, nel primo dei due libri di ufociclismo che è uscito, c'è l'Atlante tattica d'uso del ciclista sensibile, c'è una disanima molto interessante sulla psicogeografia che vi straconsiglio velocissimamente. Anche Edoardo De Falchi, non è vero, Edoardo De Falchi è un personaggio che ha fatto parte negli anni 90 del collettivo dei disordinazioni che usavano tecniche situazioniste e che ha scritto questo libro molti anni fa, non è vero, ma che è molto interessante, in cui si raccolgono proprio delle tecniche di disordinazione situazioniste nelle città. Per buon pace, non ci dimentichiamo assolutamente Luther Blissett, che è stato uno degli ultimi movimenti situazionisti veri e propri con la fine degli anni 90, di cui troverete tutto quello che cercate nel libro Detonazione, nel libro che ricordavamo essere stato presentato qui a Forte Prenestino, a pochi metri da dove ci troviamo nel ora, nel cinema di Forte Prenestino, esattamente, e in cui troverete tutte quelle che erano le culture antagoniste degli anni 90. E poi i libri di Luther Bliss, i tuoi libri, diciamo, fondamentali di Luther Bliss. Luther Bliss è da cui nascono poi due, si spezzano in due, dopo l'esperienza di Luther Bliss, si spezzano queste due filoni che da una parte diventano i Wuming e dall'altra gli ufologi radicali di cui abbiamo parlato. I Wuming non ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato sempre in maniera un po' sottesa. I Wuming, d'altro canto, non hanno tanto bisogno di presentazione. Esatto. E non hanno bisogno che noi ne parliamo. Attraverso quella che poi sarà l'Associazione Psicogeografica Londinese, una delle più importanti nella storia, Malcolm McLaren, personaggio ambiguo, arriverà alla costruzione di quella che, ahimè, con buona pace di tutti i punk, sarà la via punk dell'Inghilterra, sì. E lì qualcosa è la pubblicità, assolutamente. Lo stavo per dire io, te lo stavo vedendo e te l'ho tolta. Take the gift from the apple tree, falling down self-consciously. Same mistake as it was before, who knows what you did it for. E siamo sempre a Bocca Chica Cosmodrome, la trasmissione che parla di capitalismo spaziale. Secondo te, Bimo, questi erano gli Intermast, Apple III. Secondo te ci siamo col situazionismo, ci siamo tanto allontanati dalle situazioni extra atmosferiche? Ma in realtà no. Tra l'altro hai notato, noi parliamo di atmosfere esatto, nella psicogeografia, esatto, nel situazionismo, esatto. E casualmente per lo spazio oggi si parla di diciamo dimensione extra atmosferica, quindi al di fuori di quello che è il dominio evidentemente delle emozioni. Chissà, spazio da colonizzare. Sì, esatto. Chissà se questo spazio da colonizzare potrebbe comunque essere diviso in UDA, chissà. Assolutamente, nel momento in cui diventerà uno spazio antropizzato, potremmo fare un'analisi delle UDA. Ah, quindi qui c'è la domanda del neofita, ma quindi lo spazio per essere suddivisibile in UDA deve essere per forza antropizzato? Ahimè sì. Ah sì? Sì, sulla Terra, grazie alla globalizzazione, diciamo non per fortuna, ma insomma, grazie alla globalizzazione tutto è antropizzato, quindi diciamo la Terra è completamente utilizzabile. Però lo spazio, appunto, è proprio extra atmosferico, la contrapposizione delle parole non è assolutamente accidentale. Significa che lì manca la colonizzazione di quella che è l'aspetto politico che le scelte umane possono imporre ad uno spazio, nello spazio extra atmosferico. Diciamo che manca una colonizzazione di fatto, ma una colonizzazione immaginaria è già stata fatta. Quello sì. No? Sì. Quando l'UFO viene, abbiamo fatto una monografica, quando l'UFO viene reso equivalente al disco volante o all'alieno, di fatto c'è una colonizzazione dell'immaginario nella dimensione extra atmosferica. Ma anche, che ne so, il paesaggio lunare, il paesaggio marziano, anche se non sono mai stati, non c'è segno, o forse c'è poco segno di presenza umana, ma comunque sono diventate parte di noi indirettamente, no? E quindi hanno una loro valenza, come dire, un'ambiance loro, se vogliamo, no? Sì, è improbabile che se tu vada su Marte troverai delle unità di ambiance create dagli umani. Il problema è quello. Beh, le tracce le troverò, tracce di dei robot, di cingoli. Sai, con questo, beh, di ruote dentate. Ti sei letto il primo manuale di ufociclismo? Perché sul primo manuale di ufociclismo è stata tentata una deriva psicogeografica su Marte attraverso le tracce dei robottini marziani. Quindi bravissimo. Beh, insomma, ripartiamo dall'UDA, perché in fondo è il concetto che poi gli ufociclisti mutuano in maniera più forte dalla psicogeografia, anche in generale tante altre cose, la vocazione a riguardare, a rileggere le mappe, a riguardare gli spazi antropici, sicuramente è una questione che prendono e che assumono in toto dalla psicogeografia. E le UDA in realtà, secondo gli ufociclisti e non secondo gli psicogeografi, qui l'ufociclismo in questa è un'evoluzione della psicogeografia, tentano di dare un discorso un po' più scientifico, un po' più oggettivo sulla soggettività sul soggettivismo che una ambiance può produrre in chi la attraversa. È possibile trovare quegli elementi che fanno di una UDA un'UDA che è un'UDA per tutti uguale? Beh, la ricerca di questi elementi anche per lo speculatore. Anche per lo speculatore? Beh, quello di prima. In parte questa trasformazione era già stata tentata da Guy Debord rispetto agli inizi, il tentativo, ma poi Guy Debord a un certo punto si deve convincere del fatto che le UDA sono delle percezioni soggettive, anche se già nella psicogeografia esiste un metodo di verifica di quella che può essere l'emozione prodotta dall'ambiente, quella dominante, che è la verifica consiliare. Ci devono essere almeno 3 psicogeografi che verificano e che danno un'opinione conforme su un'atmosfera che deve essere più o meno simile per tutti, per poter, come dire, attribuire un'atmosfera ad uno spazio. Gli ufociclisti, che in realtà fanno quello che facevano un po' più o meno gli psicogeografi, però in bicicletta, cioè derivano per la città, per gli spazi antropici, non camminando come fanno gli psicogeografi, in realtà tentano di trovare quelle che sono delle strutture sul territorio che rafforzano o sminuiscono la potenza di un'atmosfera che è qualche cosa di prodotto. Cioè, ripetiamolo, le atmosfere non sono qualche cosa di campato in aria, le atmosfere sono il preciso, risultato di quelle che sono le contrapposizioni tra visioni del mondo di gruppi sociali pertinenti. Questa parola, gruppo sociale pertinente, in realtà proviene, e l'ufociclismo da lì la prende, dalla sociologia costruttivista, diciamo della sociologia delle tecnologie, lì dove si parla della affermazione di una tecnologia piuttosto che un'altra. Perché? Perché intervengono nel contesto sociale gruppi pertinenti che si strappano di mano questa tecnologia nel momento in cui deve essere, in qualche modo si deve ancora affermare, spostandola più in una direzione o più in un'altra. C'è un bellissimo libro di Beaker, che è un po' uno dei fondatori, che poi in realtà è una scuola che si rifà addirittura al metodologo Kuhn, questa del costruttivismo, di questa fetta di sociologia, che si chiama, guarda caso, La bicicletta e altre innovazioni. La bicicletta c'entra poco, cioè nel senso si parla della bicicletta proprio come artefatto che viene in qualche modo imposto secondo dei modelli atmosferici diversi a seconda dei gruppi sociali pertinenti che si affacciano sul mercato della sua stabilizzazione, perché tutti gli artefatti tecnologici che vengono creati e messi sul mercato all'inizio hanno questa fase di instabilità in cui possono essere una cosa o un'altra, cioè possono avere una prevalente destinazione d'uso in qualche cosa o nell'altra. Questo avviene per tantissimi oggetti. Dopo interverrà un'altra disciplina che si chiama l'ergonomia sociale cognitiva, che determinerà e dirà: questo oggetto deve funzionare solo per fare questa cosa, perché tu ad esempio potresti usare, per dirti, il tuo trapano per farti dei frullati. Perché ti devi comprare il trapano e il frullatore? Ti compri solo il frullatore e ti puoi fare i frullati. No, c'è l'ergonomia cognitiva che dice: no, il frullatore non è ergonomicamente corretto per farsi i frullati, quindi ti devi comprare un altro. E quindi il trapano, sai, nella storia degli elettrodomestici ci sono tantissimi oggetti che nascono veramente multifunzioni, ma poi vengono alla loro capacità. Beh, per esempio, mi viene in mente, non è un utensile, diciamo, materiale, ma internet, per esempio, ha avuto diverse fasi in realtà, perché è passato da una fase militare, una fase accademica, una fase che era diventato una sorta di paradiso dove tutto era possibile, fino a quella che conosciamo, che non c'è bisogno distopica. Di scrivere. Sì, esatto. Sì, sono perfettamente d'accordo. L'esempio più classico è quello della battaglia VHS Betamax, sì. In cui il Betamax, la tecnologia coeva, perde nonostante sia anche Video 2000. Esatto. E perde nonostante sia una tecnologia superiore al VHS, perché nel VHS i gruppi sociali pertinenti riescono a fare una politica di affermazione del prodotto assolutamente migliore rispetto al Betamax. E questo è interessante perché si può in qualche modo espandere a tantissime altre condizioni umane. E l'atmosfera è uguale: le atmosfere sono in realtà la battaglia di gruppi sociali pertinenti sulla città che vogliono imporre un'atmosfera. Un centro sociale come Forte Prenestino è in qualche modo un gruppo sociale pertinente che vuole instaurare, cioè tenta di instaurare una atmosfera diversa su un quartiere Centocelle nello specifico rispetto a quello che Centocelle è di per sé storicamente come quartiere e in qualche modo incarna nelle sue cristallizzazioni atmosferiche. Ma tu volevi dire qualcosa? No. Ah, ok. In realtà no. In bici perché l'UFO ciclismo fa tutto ciò e cerca questi elementi in bici perché a differenza della psicogeografia la bicicletta che va a piedi la bicicletta consente di fare più percorso, più chilometri, quindi incontrare più UDA, mantenendo quello che dicevamo all'inizio, proprio un rapporto fresco, sereno e continuo, quindi discontinuo con l'ambiente, quindi capaci di percepire quelle che sono le atmosfere. Quindi siamo al limite della velocità oltre il quale c'è lo scooter che però non va bene. Sì, esatto, e qui c'è proprio una diatriba perché in realtà lo scooter va troppo veloce e poi comunque incarna un modello di attraversamento della città che è un po' quello automobilistico. UFO scooterismo. Non ci sarà mai. Oh, chissà. Ti faccio sentire un'altra cosa. Forse a certi potrà sembrare capricciosa, ma in ogni momento è proprio come l'abbiamo creata noi, come il nostro stato d'animo. Allora, non ti dico chi era e non te lo dico perché potranno saperlo solo coloro che si iscrivono al canale Telegram. Giusto. No, aspetta, solo al canale Telegram. E questa è una piccola, come dire, una piccola sottrazione di diritti che ho deciso di fare io così, del tutto arbitrariamente. Tu per sapere che tu potranno accedere a questa informazione solo coloro che avranno la spunta verde, cioè il green check. Dal nostro canale Telegram. Così io ho deciso che una parte dei diritti venga tolta ai nostri ascoltatori. Visualizzo folle di persone precipitarsi ad iscriversi al canale Telegram. Quindi non hai colto la polemichetta. Va bene. No, col green check. Ah. Insomma, no, quindi diciamo questa sera aspettatevi una serie di sottrazioni di diritti così accidentali, casuali, assolutamente arbitrari. Che a un certo punto. Quindi allora, avete sentito una citazione, ma non vi dico. Non dico qual è. Non la posso dire a tutti perché chi non è iscritto al nostro canale Telegram può uscirne probabilmente danneggiato. Se ti iscrivi al canale Telegram è diverso e potrai avere questa informazione. Quindi, ma io non lo faccio, cioè, nel senso, io non ce l'ho con chi c'ha il Green Pass. Assolutamente. No, prego. Non ce l'ho con chi c'ha il Green Pass. Volevo anche qui avete fatto benissimo. Il problema è che però voglio farvi un attimo entrare nella psicologia di chi non c'ha il Green Pass. Va bene, quindi citazione. Vabbè, dai, sono buono. Ecco, comunque l'avete riconosciuto, era sempre Stalker. Esatto. Perché oggi è facile. Beh, oggi è facile, però le prossime un po' meno. Come dire, stiamo parlando di psicogeografia, ne abbiamo parlato, stiamo parlando di ufociclismo e l'ufociclismo, abbiamo detto, deriva dalla psicogeografia, ci entra in polemica proprio perché vuole essere in questo senso un po' più scientifico e far sì che le atmosfere non siano una cosa così soggettiva come in qualche modo la psicogeografia alla fine aveva dovuto accettare. E non entreremo troppo nel dettaglio perché l'ufociclismo ha una serie di strumenti, una serie concettuale molto complessa e molto ampia e evoluta che deriva anche in parte in modo molto semplificato dalla topologia, in parte anche dalla geometria vettoriale per spiegare quelli che sono gli oggetti invisibili a qualsiasi altro tipo di cartografia, ma che invece l'ufociclismo individua sul territorio. E ci siamo arrivati al punto: l'ufociclismo in realtà è una pratica alternativa di cartografia, cioè cartografare in maniera differente la città. E questo perché? Perché parte proprio dal presupposto che dicevamo inizialmente: le mappe sono non sono a noi congeniali o comunque ci fanno apparire la vita troppo monotona perché in qualche modo cristallizzano in qualche modo, definiscono una volta per tutte bidimensionalmente quello che è lo spazio che viviamo. E in quello spazio ci sono determinate atmosfere che, se appunto non approcciate in una maniera creativa e deturnante, come direbbero i situazionisti, non saranno mai modificabili. Quindi dobbiamo partire da un reset generale di quella che è la condizione ambientale che ci troviamo a vivere, atmosferica o architettonica che sia, per poi ricreare, solo su un foglio bianco si potrà ricreare, si potranno progettare le atmosfere a noi più congeniali. E due modalità su cui si muove la psicogeografia sono quella, appunto, abbiamo detto, della mappatura che viene fatta nelle ore diurne, quindi gruppi di ciclisti che si muovono per la città a creare mappe secondo gli strumenti ufociclistici, ma anche a volte in maniera assolutamente scontrandosi meno con le automobili di Google Map. Scontri non è mai, epici. Non è mai accaduto, non è mai colpendole accaduto. Con le pompe. Non è mai accaduto. Però no, perché c'era una citazione che a questo punto ci veniva bene, però volevo anche dire che l'altra modalità con cui l'ufociclismo in realtà si aggira per la città è invece quella un po' più folcloristica, notturna, alla ricerca di incontri improbabili, anche e perché no con alieni, perché così proprio come diceva la ZLN o come fa la Critical Mass, perché fermarsi agli incontri solo con, esatto, gli terrestri? Se dovesse presentarsi un alieno, tanto meglio. E questo alieno non deve essere necessariamente un alieno che arriva da un altro pianeta, può essere anche una persona molto molto diversa da noi, e quindi massima massima apertura atmosferica e massima apertura conscia rispetto a possibili incontri imprevisti con persone del tutto diverse da noi. Questo è psicogeografia pura, da quello e questo ritorniamo alla psicogeografia, esatto, dell'inizio. Però questa citazione che ti faccio sentire in realtà ha ancora a che fare con l'UDA, anche se l'UDA è un concetto che in qualche modo l'ufociclismo sta tentando di superare, perché in realtà questa continuità di spazio non è necessariamente solo esclusivamente data da una caratterizzazione atmosferica. Qualsiasi oggetto può essere può rappresentare una continuità dello spazio, ad esempio un idioletto può essere, cioè il fatto che tutte le persone utilizzano un certo dialetto può essere parte di una continuità locale, di una continuità spaziale. E in questo senso l'ufociclismo sta tentando di superare le UDA con il concetto un po' più generico di campo, in cui l'UDA diventerebbe semplicemente un caso particolare. Chester's Mill è un posto come tanti altri, o quantomeno lo era, finché non siamo stati tagliati fuori dal resto del mondo da una misteriosa cupola. Invisibile, indistruttibile e totalmente invalicabile. Siamo in trappola. Non sappiamo da dove venga, né perché sia qui, ma ora che siamo tutti intrappolati sotto la cupola, nessun segreto è più al sicuro. L'hai visto tu, Bimbo, questa serie? Penso di sì, aver visto un paio di puntate, non mi ha preso Under the Dome. Non mi ha preso moltissimo, quindi non sono andato avanti. Beh, se la si guarda, non è una bellissima serie, almeno secondo me, ma se la si guarda dal punto di vista psicogeografico, fucilistico, è perfetta, perché la Dome, l'Under the Dome, è esattamente un'UDA invalicabile, un'UDA forzata in cui si crea uno spazio continuo, uno spazio atmosferico continuo, e in cui tutte le persone che sono al di sotto di questa dimensione atmosferica subiscono quelle conseguenze, si adeguano e si comportano a seconda di quella che è la condizione. E torniamo velocissimamente, perché non toccheremo tutte le categorie dell'ufociclismo, ma per capire ad esempio una categoria che potremmo utilizzare, che può essere poi riproposta in un altro in un'altra chiave, è quella degli psicodissuasori, cioè quegli oggetti che sul contesto urbano ti tendono a in qualche modo a tenerti lontano, ad essere repellenti, e può essere una repellenza sia fisica, una guardia, un muro, un cane, ma anche psicologica, un posto che in realtà non è pericoloso, ma tu non accedi perché pensi o ritieni, o perché esprime un'immagine e un'atmosfera che potremmo ritenere pericolosa. Ecco, c'è un corrispettivo dello psicodissuasore, che poi in realtà è un oggetto mobile all'interno della strutturazione ufociclistica, in cui a volte va a rafforzare un'UDA, un'atmosfera, a volte invece la va a indebolire, che è quello del cosiddetto design ostile. design ostile, che è una pratica che viene utilizzata ormai dall'architettura in tutte le città, proprio per non far stazionare le persone nelle piazze, per rendere la città sempre mobile e in movimento, quindi per essere idrorepellente rispetto all'umanità. O forse per forzare le soste in luoghi ben precisi, che tipicamente sono attività commerciali. Questa, diciamo, questa è una visione positiva in parte positiva della cosa. Insomma. Sì, no, positiva della cosa, perché molto spesso il design ostile serve proprio invece per non far stazionare i senza tetto o gli animali in determinate zone, proprio per allontanare quella che è, diciamo, l'umanità che non consuma, in questo appunto dicevi bene te, quella che è l'umanità che non consuma, e farli per non farli stazionare nei luoghi che invece non essere utilizzati solo come vetrine. E il design ostile infatti spesso si lega al concetto di decoro urbano, fondamentalmente. Che noi qui a Forte Prestino non amiamo per niente. Per niente. E lo psicodissuasore è quindi una categoria più generale in cui il design ostile rientra, perché appunto il design ostile può essere uno psicodissuasore, ma lo psicodissuasore, come dicevamo prima, può essere un cane, può essere un muro, può essere una guardia, un poliziotto, può essere qualsiasi cosa che ci tiene lontani. Io vi consiglio di andare a vedere i lavori del collettivo belga Design for Everyone, che in realtà sono un collettivo belga che fa proprio del contro design ostile, cioè lì dove si beccano queste panchine scomode fatte apposta o questi piani inclinati per non far sedere le persone, loro vanno lì e mettono in piedi delle strutture mobili in cui rendono abitabili, confortevole il design che invece dovrebbe essere ostile. Non pensavo che dei belgi avrebbero mai fatto una cosa del genere. I belgi, come dicevo l'altra volta, spesso ci sorprendono, sia musicalmente che no. Ti faccio sentire un'altra cosa. Ma anche lei, caro dottore, camminare in quel modo. Ma quale modo, scusi? Un momento. Le scritture key del verbal. Prenda la sua roba. Grazie. Gironzolava senza meta. Camminava lentamente, si fermava ripetutamente, non aveva automobile. Insomma, caro dottore, lei passeggiava. Allora, io adesso vi potrei anche dire di che cosa si tratta, ma poi per sapere di che cosa si trattava dovete avere la spunta verde, dovete avere il green check. E non è stalker questo, decisamente non è stalker, no. Quindi è più complicato. Allora, chi si iscrive al nostro canale e quindi arbitrariamente ha dei diritti in più rispetto a chi non è iscritto saprà di che cosa si tratta, e non è polemichetta, non è per niente polemichetta. Vabbè, allora, quindi spunta verde e iscrivetevi a Boca Chica Cosmodrom. La spunta verde rafforzata. Un giorno ci sarà anche la spunta verde rafforzata. Quando non basterà più la spunta verde normale. Esatto, del tipo, ma cosa ha detto Bimo al minuto 7.4? No, niente, allora non ti diciamo a che cosa. Allora, tra le altre cose che vi potete andare a vedere, diverse dall'ufociclismo, ma che in qualche modo assomigliano al modo di operare, è un altro collettivo sudamericano degli iconoclassistas, interessantissimi, perché loro in realtà intervengono praticamente in una serie di diatribe, una serie di dispute politiche territoriali in Sud America, per esempio di popoli contro governi o anche di singoli contro altri singoli, e la prima cosa che fanno quando arrivano sul posto è creare una mappa, trasformare la mappa originaria in qualche cosa che invece metta al centro della mappa il problema stesso, perché il problema delle mappe è esattamente questo, cioè il problema delle mappe sono asettiche apparentemente, perché nel loro tirar fuori tutte quelle questioni politiche, territoriali che dovrebbero essere iscritte in esse, in realtà agiscono politicamente, cioè ci danno un'immagine assolutamente artefatta di quello che è lo spazio che stiamo osservando bidimensionalmente. Ma no, mi stai dicendo qualche cosa? No, era più un discorso che la mappa rappresenta una traduzione dello spazio che è per forza una cosa di parte, insomma è stata... È l'espressione di una parte vincente su una parte che ha perso. Sì, tra l'altro, assolutamente, se voi andate. Come una traduzione, le mitiche traduzioni della Bibbia, per dire. Esatto. Se voi andate sul sito degli ufociclisti, tra l'altro, trovate un link a un PDF molto interessante di uno scritto di un geografo inglese che ha lavorato anche alla Enciclopedia Britannica, insomma, diciamo, quindi. diciamo, non sospettabile di essere un antagonista, che in realtà fa una critica bellissima utilizzando Deleuze e Guattari, tra l'altro, proprio al sistema della cartografia tradizionale. Molto molto molto bello. Acceleriamo, andiamo molto più veloci, perché intanto, detta molto sinteticamente, quindi perché Cosmo anticapitalista? Proprio per questa sua apertura verso la dimensione dell'altro esterno, dell'alieno in questo caso, che gli deriva sicuramente dall'ufologismo, dalla sua appartenenza, dalla sua provenienza dall'ufologia radicale, questa sua tendenza a immaginare i partecipanti e tutto il contesto nel quale le cose si attuano in una dimensione più cosmica e non solo più quindi terrestre. E vi rimandiamo quindi a intanto i due libri che l'ufociclismo ha scritto, e soprattutto invece al loro blog, che in realtà sono ufociclista anch'io, è inutile negarlo, quindi diciamo al nostro blog, e perché abbiamo fatto una puntata, ma si è capito qualcosa sull'ufociclismo, un po' meno che sulla psicogeografia, e al blog su cui ci sono tutte le derive, tutte le ricognizioni ufociclistiche mai fatte, non solo a Roma ma anche nelle altre città italiane. Ma ci sono delle ricognizioni a breve termine o... Ci sono delle uscite che faremo, dovete iscrivervi ai nostri social, seguirci e decidere insieme a noi. O anche al canale Telegram. Anche al canale Telegram Boca Chica, qualcosa uscirà sicuramente anche da lì. Siamo sempre a Boca Chica Cosmodrome e abbiamo fatto una rapida carrellata su una delle culture cosmo anticapitaliste che più ci piacciono, anche perché sia io che Bimo la pratichiamo. Esatto. E quindi ci divertiamo a parlarne, e speriamo di essere riusciti a farci capire sul perché in realtà rientra sicuramente all'interno delle culture cosmo anticapitaliste, perché qui sulla Terra in queste condizioni già guarda in una maniera alternativa al cosmo. D'altro canto l'ufociclismo appunto deriva dall'ufologia radicale, che deriva a sua volta dalle pratiche del marxismo bogdanoviano e dal cosmismo ancora prima, e quindi diciamo c'è un filo rosso che lega tutte queste pratiche, anche se si concentrano molto spesso sul territorio antropico terrestre, non potrebbe fare altrimenti. Ancora razzi antagonisti che vanno nello spazio dischiuranti ancora non ne abbiamo. Quello sarà un tema molto interessante. Quello sarà la prossima sfida. Però ecco, per esempio un piccolo satellite lo potremmo mettere in orbita. È facile, i CubeSat. Sì, beh, sì, si potrebbe fare. Potremmo mandare in orbita una scatola di legno vuoto. che un po' poi tra l'altro quello che ha fatto Asgardia, questo stato indipendente nello spazio, che a cui ti puoi domiciliare se non sbaglio e ti puoi, puoi prendere la nazionalità di Asgardia. C'è un presidente, c'è un sito molto interessante che in ogni momento ti fa vedere in questo momento nello spazio dove sta Asgardia, ma Asgardia non è altro che un cubo esatto, quindi un piccolo cubo che gira intorno, e però battezzato a nazione, cioè come dire identificato come nazione vera e propria, insomma. Tra l'altro CubeSat di legno esistono, non era completamente una buttata. Sì, anche perché lì nello spazio non ci sono agenti atmosferici ostili di quel tipo, quindi ci sta e va bene. Stiamo parlando di spazio e stiamo parlando del nostro CubeSat antagonista e in qualche modo assolutamente ribelle che vorremmo lanciare nello spazio, e io temo che per farlo per il momento dovremmo proporci a qualche privato tipo Elon Musk per forza, o a qualcuno magari anche più, diciamo, meno ambizioso. Jeff Bezos, ci sono ormai per mandare in orbita un cubo di gomma piuma, come probabilmente saremmo noi, o un cubo di gomma piuma rosa, chissà. Beh, allora, questo, tutta questa, come dire, questa curva, perché ci serve? Perché in realtà i vettori nel capitalismo spaziale sono un po' la chiave di volta. E anche il simbolo, se vogliamo, l'immagine, anche per usare un termine che ho usato prima. Ma perché sono però la chiave di volta? La chiave di volta perché in realtà i vettori sono la chiave di volta visibile, nel senso che sono la punta di un iceberg che in realtà è più articolato, però oggettivamente l'immagine del razzo che ritorna sulla Terra, anzi magari due primi stadi di un lanciatore che atterrano praticamente insieme, probabilmente è la, come dicevamo prima, la fotografia che in qualche modo definisce un momento, un'atmosfera e una situazione, no? E, in realtà ciò che è veramente importante è la ragione per cui questi oggetti siano stati potuti realizzare da aziende private, quindi il progresso nell'informatica, scienze dei materiali e quant'altro che ha portato una realizzazione di questo tipo nella sfera di attività di una azienda privata. Però è inutile dirselo, negarlo, che il momento in cui il grande pubblico, tutti si sono resi conto che qualcosa forse era cambiato, appunto nel momento in cui abbiamo visto atterrare dei razzi, e dei razzi che, ricordiamolo, all'inizio venivano completamente nei primi stadi della conquista dello spazio, venivano perduti i primi stadi dei razzi, infatti, ed era un costo notevole, insopportabile. Beh, diciamo che anche attualmente per mandare un qualsiasi oggetto nello spazio i costi sono esorbitanti. Il primo stadio che è ciò che viene recuperato da almeno due aziende in questo momento rappresenta il 70% del costo che viene sostenuto. E quindi significativo. Quindi sì, piuttosto significativo. Poi ci sono in realtà... Tu hai una percentuale dell'abbattimento rispetto agli anni 60-70? Dei costi? Sì. Il fatto è che l'abbattimento dei costi non deriva soltanto dalla riusabilità. Nel senso che, per esempio, per fare un esempio pratico, anche usando un Falcon 9 o un Falcon Heavy, sono due vettori privati. Esatto, privatissimi. Nella configurazione expandable, cioè in cui questo viene direttamente dal listino dell'azienda che li produce, in cui vengono perduti, comunque i costi sono infinitamente inferiori rispetto a quelli dell'astronautica eroica, diciamo, di diversi ordini di grandezza. Stiamo parlando di prezzi completamente... Dovrei avere un attimino... Vabbè, però parlavamo di chiave di volta, perché in realtà l'abbattimento di questi prezzi è quel ciò che sta aprendo la strada alla seconda conquista, certo, dello spazio. Certo, quindi certo. Fondamentalmente è vero che non risolviamo tutti i problemi, non risolviamo il problema dei costi generali di quella che è la velocità di fuga, che comunque resta problematica nell'uso di nuovi, anche se ci sono nuovi carburanti probabilmente più efficienti, resta sempre la spesa più grossa. Però poter recuperare gli stati dei razzi e ogni volta non doverli ricostruire è un qualcosa che abbatte i costi e rende a questo punto competitiva l'accesso a quelle che sono le risorse collocate nello spazio. Lo rende più competitiva, diciamo, certo, diciamo, certo. Non completamente folle come poteva essere in una fase precedente. E la dinamica di questi prezzi e dei veicoli che sono disponibili è velocissima, ha assunto dei ritmi e dei tempi da, appunto, industria privata, non c'è più un calcolo strategico come poteva succedere nella fase precedente, ma stiamo parlando appunto di situazioni che evolvono anno dopo anno. E in questo gli stati sono rimasti indietro fondamentalmente, perché se guardiamo, come dicevamo la volta scorsa, la Francia con i suoi Ariane, ma anche i Vega italiani, parliamo ancora di lanciatori classici. Sì, sì, e anche il a parte che sono molto più piccoli e portano carichi assolutamente infinitamente più piccoli. Sì. Beh, Ariane 5 non è piccolissimo, non è piccolo, no. Però per esempio la nuova generazione di vettori Ariane 6 è comunque appartiene comunque alla fase precedente, e anche chi governa lo spazio europeo è perfettamente consapevole di questo, esplicitamente consapevole di questo, e appunto il tentativo di riportarsi a livello del New Space si è tradotto negli ultimi giorni, poi tra l'altro, nella messa a disposizione di fondi statali alle aziende private. Vabbè, questo è una caratteristica di passaggio di soldi che fa parte evidentemente. D'altro canto, le aziende private, è vero che in qualche modo in questo momento funzionano da cuneo, però poi saranno gli stati a giovarne di più. È una guerra tra stati, come diciamo la volta scorsa, è una guerra ha per una esempio, sua dimensione, certo, di guerra. È una guerra, come dicevamo la volta scorsa, geopolitica, che si gioca sulla terra. Esatto. In questo momento soprattutto gli attori sono la Cina e gli Stati Uniti. Ma c'è un altro aspetto, secondo me, interessante, a parte la riutilizzabilità che fa delle risorse extraterrestri qualche cosa oggi di interessante, quello che i geologi chiamano la fine dei filoni principali di metalli, e soprattutto di metalli rari. Allora, nel momento in cui i filoni principali stanno cominciando a scarseggiare, che significa che non è che scarseggiano i materiali sulla Terra, ma scarseggiano quelli che sono i filoni principali, che sono i più convenienti da cui fare estrazione, le risorse collocate nello spazio cominciano a diventare appetibili se, questo appunto, i vettori per raggiungerli riescono ad abbattere i costi. Sì, diciamo, quindi c'è questo binomio, da una parte, diciamo, un'ideologia generale che diciamo all'inizio espansionistica, comunque a prescindere, che è nella testa delle persone e soprattutto del capitalismo. Poi c'è un abbattimento sistematico, quindi un rinnovamento di quelle che sono le tecnologie di lancio, che erano un po' il collo d'imbuto, e tutto ciò coincide con una rarefazione di quelli che sono i principali indotti di metalli sul pianeta Terra, che iniziano a far diventare un po' più interessanti economicamente quelle che sono risorse non sì spazio. Diciamo le differenze di prezzo brutalmente vanno riducendo, sono ancora piuttosto significative al momento attuale, però sicuramente si sono ridotte rispetto a un periodo di tempo neanche tanto lontano, tutto sommato. Facendo un passo un po' più avanti, noi ne parliamo spesso, io e Bimo, di questa cosa. In realtà l'estrattivismo spaziale potrebbe diventare molto molto interessante nel momento in cui la società umana inizia ad espandersi. Eh sì. Cioè, nel momento in cui i materiali legati alla produzione di quelle che sono le tecnologie contemporanee, soprattutto i metalli delle terre rare, serviranno non più a 7-8 miliardi di persone, ma a 16-20 miliardi di persone, che non risiederanno più solo sul pianeta, ma necessariamente dovranno risiedere su quelle che sono le lune o i pianeti a noi più vicini, tipo Marte o qualche luna di Marte, fondamentalmente. Esatto, esatto. E questo è probabilmente, come dire, un grande passo avanti, però è ciò che già alberga nella testa di imprenditori come Elon Musk. Sì, beh, se vogliamo prendere per buone le affermazioni pubbliche, il suo vero obiettivo non è il vile denaro o il vile potere, ma quello di permettere all'umanità di espandersi anche su altri pianeti. Ma perché? Cosa gli vuole vendere, secondo te? Bella domanda, bella domanda. Beh, supporto vitale. Sì, dei bei metalli. Supporto vitale, ma anche aria, acqua, cioè nel senso alcune cose che qui noi diamo un po' per scontate nello spazio non lo sono affatte, diventano supporto vitale che può essere, ma guarda un po' come sta avvenendo con noi, come la pandemia già abbiamo stato. Intanto l'idea espressa da molti imprenditori anche qui sulla Terra che alcune risorse tipo l'acqua non devono per forza essere pubbliche, cosa orrenda. Implica l'idea di un supporto vitale che ci viene fornito in tutta la sua completezza, cioè così come noi non siamo più in grado di produrci il cibo da solo, ma ci deve essere fornito, anche l'acqua diventa un bene che ci viene comunque fornito, ma con prezzi e con disponibilità che sono quelle del mercato. Esatto, per fortuna si fanno dei referendum che ci permettono di decidere se questa è l'impostazione che noi vogliamo per l'acqua, e quindi noi possiamo votare no, per poi tra l'altro trovarci con l'acqua che privatizzata lo stesso. Quindi se per strada becchiamo qualcuno che dice no alla privatizzazione dell'acqua, baciamo la terra su cui cammina, perché sì, perché la consapevolezza diventa sempre meno forte, ma perdonami, la consapevolezza diventa sempre meno forte, ma può diventare più forte nel momento in cui in qualche modo entra nella testa delle persone la concezione che noi stiamo vivendo i primordi di quello che è la creazione di un supporto vitale totalmente impacchettato e totalmente fornito all'utente finale, lì dove alcune cose prima erano diciamo garantite in quanto diritti umani. Esatto, erano un diritto umano, e oggi invece probabilmente l'idea di spostare tutto nello spazio porterà anche sulla Terra a come dire, rafforzare ben presto l'idea che alcune cose non sono assolutamente dei diritti, ma sono, appunto, lo ripeto, supporto vitale, e supporto vitale non è mai garantito. E che devono essere acquistati. Esatto, supporto vitale acquistato. Beh, questa secondo me è una, come dire, una prospettiva orribile, però anche interessante su cui discutere, perché sì, discutere finché abbiamo modo di farlo. Esatto, sì, finché abbiamo modo di intervenire, finché abbiamo modo. Ma d'altro canto Boca Chica Cosmodrome questo vuole essere, no? Vuole essere una spina nel fianco del capitalismo, nel senso che vuole essere un suggerimento a chi ci ascolta di iniziare a ragionare su questi temi, ovvero su quelli che sono i prossimi passi del capitalismo, perché molto spesso noi viviamo di politiche di retroguardia dal punto, giustissime, anzi diciamo di resistenza assolutamente necessarie per sopravvivere sulla Terra, ma ci dimentichiamo di gettare un occhio a quelle che invece sono le dinamiche in divenire. Se è vero che il capitalismo del controllo, ad esempio, è un qualcosa che in questo momento, soprattutto in questo momento, ci opprime e modella e conforma la nostra vita, norma la nostra vita, è anche vero che quella è una fase del capitalismo, da un certo punto di vista, ormai acquisita, che non smetterà di essere, cioè si sarà sempre più forte, però da un certo punto di vista sul quale forse poco può essere fatto, perché è talmente entrata nelle nostre vite attraverso i cellulari, attraverso la digitalizzazione, dovevamo forse 100 anni fa o 50 anni fa preoccuparci e forse meno dimenarci nell'idea di una liberazione da parte dell'informatica. Per esempio, doveva esserci una Boca Chica Cosmodrome che con argomento internet, forse. Beh, c'era il cyberpunk che era all'epoca, negli anni 80, era un movimento critico rispetto alla digitalizzazione, molto, che però ha anche contribuito a formare parte dell'immaginario su cui la digitalizzazione attuale si basa. Assolutamente, è un discorso di azione e reazione continua, di movimenti pro e avversi, che in realtà effetti collaterali, esatto, indesiderati, che a volte supportano, a volte avversano determinate condizioni. Per cui sì, diciamo, la fonte e l'ispirazione critica sicuramente non basta. E allora forse tornare a un primitivismo tecnologico? We'll be right back. Boca Chica Cosmodrome, vi abbiamo fatto sentire un pezzo di primitivismo tecnologico. Assolutamente, tu li riconosciuti? No. Primitive Calculators. Non l'ho riconosciuti perché non li conosco. Ecco, gruppo australiano, questo è un pezzo del 79, molto interessante, molto interessante. Andatevi a cercare le poche cose che si trovano in rete, Primitive Calculators. Beh, allora, Bimo, abbiamo parlato di riutilizzabilità che in realtà, adesso mi lancio in questa metafora, se vuoi anche un rimappare le tecnologie, un po' come abbiamo parlato di rimappature dal punto di vista dell'ufociclismo, abbiamo parlato di come si sta rimappando il capitalismo spaziale, che si sta rimappando... verso una dimensione extraatmosferica grazie anche alle tecnologie delle riutilizzabili, che dicevamo non sono ferme ma sono in continua evoluzione, e il prossimo passo, che è a vista probabilmente mesi a questo punto, consiste nel non riutilizzare soltanto il primo stadio del lanciatore, ma riutilizzare tutto il ciò che lascia la Terra, se vogliamo, quindi sia appunto il motore che serve a far lasciare la Terra dal veicolo spaziale, ma anche il veicolo spaziale inteso come contenitore di ciò che viene mandato nello spazio. E qui stiamo parlando del progetto Starship, sempre SpaceX, e sarà anche il progetto che ci porterà su Marte o non porterà... questo penso che abbia parecchia strada da fare, ma ci porterà probabilmente sulla Luna, anzi sicuramente sulla Luna, almeno nelle prime fasi del progetto Artemis, con una astronave un po' diversa da quella che vediamo generalmente con le alette, perché sulla Luna non c'è l'atmosfera, esatto, ma probabilmente non ci saranno le alette, ma probabilmente... che fanno tanto anni 50. Sì, comunque senti, a me vedere questi razzi che, posso dirlo, sono scemo, ma vedere questi razzi che riatterrano un po' mi cioè mi piace, cioè, che ti devo dire, mi piace. Beh, sì, è affascinante. No, perché prima ti lasciavo con la domanda, primitivismo tecnologico, ma insomma la risposta già ce l'eravamo dati, ci vogliamo andare con i proletari, e ci vogliamo andare con le tecnologie proletarie, fondamentalmente antagoniste. Esatto. Non ci vogliamo andare con Elon Musk. Non vogliamo subirlo. Esatto. Questo è come ci siamo trovati, facevamo un parallelo prima, a subire una serie di tecnologie che si sono sviluppate dal web iniziale. Esatto. Allora io penso che con noi sarebbe tanto d'accordo Andromalis, che abbiamo tenuto un po' basso questa volta, un po' più là, perché la discussione ci ha tanto pesi, ma che è sempre con noi e ci fornisce sempre delle bellissime recensioni. Grazie Andro, anzi ti abbiamo già ringraziato pubblicamente, ma lo facciamo ogni volta, anche perché stavolta c'è anche regalato un bellissimo disegno che si è trasformato in un bellissimo adesivo. E chi avrà questo adesivo? Chi ha la spunta verde. Se avrete il green check avrete anche l'adesivo. E questo non, questo diciamo per, così, solo per togliere qualche diritto a qualcuno, esatto, a qualcuno che non avrà il nostro adesivo, insomma. Polemicuccia che in realtà è una cosa molto molto seria, e che vabbè, che però non affronteremo qui a Boca Chica Cosmodro. E sì, bellissimo disegno che trovate già ultra pubblicizzato sul sito del Forte, e che si è trasformato in questi giorni in un bellissimo adesivo, e che regaleremo anche a chi si iscrive al canale in questi giorni, esatto, nei prossimi giorni, e anche ai già iscritti che si presenteranno a prenderlo. I già iscritti che verranno qui, lo diciamo subito, ci trovano il mercoledì sera, lo sanno perché c'è la diretta, ma ci trovano qui anche il giovedì pomeriggio presso la ciclofficina del Forte, e basta, insomma, anche diciamo, ci trovano varie volte, però insomma sicuramente il giovedì durante le attività della ciclofficina del Forte, ma anche durante le domeniche del Terra-Terra, perché la ciclofficina è aperta e lì c'è sempre qualche Boca Chica cosmodromiano munito di adesivi, quindi ecco, adesivo munito. Andromalis, illustratore, fumettista, agitatore che ha addirittura una sua sigletta. Latu, Barada, Nikto. Latu, Barada, Nikto. Latu, Barada, Nikto. Oggi voglio parlarvi della Fiera degli Immortali. Che magnifico titolo. Autore il grandissimo Anki Bilal. Poiché è uscito in Francia nel 1980 e ambientato nel 2023, è davvero giunto il tempo di riaprirlo. Bilal immagina una Parigi-Stato governata dal regime fascista del grottesco Choublanc e divisa in due, con un cuore centrale abitato dai ricchissimi e una cintura urbana di diseredati. Una folla di valletti extraterrestri, mitici sono i bisessuali putti bianchi volanti provenienti dalle colonie spaziali di Dipuda, utilizzati come cherubini dal vescovo Théodule I, e il trucco e parrucco dei notabili di regime rendono l'Eliseo un'assurda corte, tanto barocca quanto inquietante. Come se non bastasse, una gigantesca piramide egizia improvvisamente appare in sospensione su Parigi. I suoi abitanti, la corte divina del dio Anubi, richiedono una quantità esorbitante di carburante al governo per far ripartire la piramide. Ma un altro oggetto arriva dallo spazio su Parigi, è la capsula prigione del disertore Alcide Nicopol, lanciato nello spazio profondo nel 1992 con l'accusa di spionaggio in favore dell'alleanza comunista sino-sovietica. Il dio egizio Horus, in rivolta contro il potere di Anubi, stringe con Nicopol uno strano patto di mutuo soccorso. È interessante notare come non siano più gli uomini a viaggiare verso la conquista dello spazio, ma sia lo spazio stesso a rigettare gli umani sulla Terra, così come sia il tempo a creare assurdi anacronismi, sputando la corte di Anubi in questa Parigi del 2023. In questo preciso punto del tempo e dello spazio, Bilal immagina un fottuto cortocircuito, dove l'onda lunga delle utopie e le contro-utopie novecentesche si squagliano, come i liquami spermatici, sanguigni, linfatici, oleosi, petroliferi, che sembrano percolare da ogni fessura e crepa di una lurida e magnificamente disegnata Parigi. Se Lincal di Jodorowsky e Möbius negli stessi anni tentava di riaccendere la luce psichedelica della speranza utopica, Bilal suona una canzone storta, disperata e definitiva, come la stagione post-punk che spegnerà per sempre quella speranza. Questo capolavoro ebbe un successo incredibile e bruciò le stanze del fumetto europeo, da cui Bilal diede vita alla serie La donna trappola, altro magnifico titolo, ancora più intricata, incomprensibile e disperata. Non me lo voglio immaginare se, come dire, se l'ultimo citato è ancora più difficile, perché questo mi sembra difficilissimo come fumetto, molto bello, pieno di situazioni, ma complicatissimo. Solo una cosa positiva: per fortuna che Parigi non si è poi risolta in un centro abitato dei ricchi e una vasta periferia. Ah beh, no, è vero, è rimasta la comune. Esatto, è una gigantesca comune bellissima. È vero, la comune prudoniana, assolutamente. Grazie Andro, illustratore, fumettista, agitatore culturale. Cercatevi il suo Planet, suo e con i suoi cospiratori Planet Mongo, che è un po' la trasmissione gemellata alla nostra, per certi versi. Si occupa di cose completamente diverse, di underground artistico, ma insomma in qualche modo siamo uniti dall'affetto e dall'adesivo, è giusto, e dalle buone intenzioni. Beh, allora intanto ti faccio sentire un'altra citazione, perché da lì ripartiamo per l'ultimissima parte di Boca Chica, Cosmodrome. Non è possibile che esistano forme di vita che possano sfuggire ai nostri strumenti. Sì, certo. Allora come possiamo escluderlo a priori? Potrebbero esistere forze capaci di annullare uno strumento. Hai riconosciuto la citazione? No. Questo a priori, queste A molto aperte. No, non te la posso dire perché non è... Cioè, c'è la spunta verde? Sì. Allora sì, vabbè, Spazio 1989 è un dialogo preso tra Bergman e Koenig sul fatto che evidentemente alcune macchine non riescono a intravedere o comunque a percepire forme di vita che evidentemente in quel momento invece sono percepibili attraverso i sensi. I sensi, cioè, che probabilmente però li stanno massacrando. Come al solito li stanno, esatto, massacrando in chissà quale regione remota dello spazio in cui si trovano. Io devo dire che tra l'altro Spazio 1989, di cui parliamo sempre molto bene, un po' meno bene della seconda stagione, però in questi giorni mi sta dando un sacco di spunti, per come lo sono rivisto per una cosa fatta su Maya, l'aliena residente nella seconda, nella seconda stagione. E è diventata un'ossessione. È diventata un po' un'ossessione. E riguardandomi la serie, mi sono venuti una serie di spunti. E chi mi segue su altri, sui social, questi giorni avrà un'altra sorpresa. Vabbè, sospese che non si guarda nessuno, perché nessuno capisce. Però, però vabbè, insomma, diciamo, a parte questo, andiamo avanti così e va bene. Allora, perché parliamo di alieni? Beh, un po' perché ne abbiamo parlato con l'ufociclismo, ripercorrendo, anche se l'ufociclismo non è interessato agli alieni, ma è interessato all'oggetto come, all'UFO come oggetto teosofico, l'abbiamo già detto, perché appartiene questa politica e questa impostazione sicuramente anche all'ufologia radicale, cioè all'oggetto che non è in qualche modo, in nessun modo sussumibile e argomentabile dal capitalismo, quindi non si produce valore con l'UFO e quindi è un oggetto che ci interessa particolarmente. Però qui parliamo della trasposizione, diciamo, un po' più commerciale, l'alieno, anzi studente commerciale, studente sussumibile, sì, esatto, la sua, il suo figlio dell'alieno, esatto. Ma guarda, purtroppo il suo figlio mercificato, ma sì, ma purtroppo guarda, ti dico per esempio questa cosa, diciamo, questa è un'intuizione dell'ufologia radicale molto importante, secondo me, questa Maya è un alieno, Maya è un alieno, sì, un alieno a muta forma, sì sì, no, beh, no, era non è un UFO, non, beh, è però un UFO, nel esatto, suo, però non per è esempio un UFO. Già nel suo essere muta forma è qualche cosa di meno stabile, ah, beh, dell'alieno, certo, definitivo, certo, se vogliamo, certo. Passami la metafora filosofica, certo. No, la questione mi hai fatto dimenticare. No, però, ma qual è la vera forma di Maya, qual è? Beh, questo è un punto. Beh, diciamo, allora, Maya non può mantenere la propria forma altra più di un'ora, quindi fondamentalmente quindi è quella umanoide, la sua, secondo forma me lo normale. Sa solo Tony, il suo spasimante su base alfa di spazio 199, è l'unica a sapere in realtà la vera forma. E no, dicevo che in realtà questa trasposizione è assolutamente necessaria a volte, è un po' come il dio ebraico che non va nominato, ma che in qualche modo devi nominare. Allora, anche lì dove questa intuizione è stata così forte, secondo me, cioè nell'ufologia radicale, è come il situazionismo, che hanno cominciato a vedere l'UFO come un oggetto politico, proprio perché non sussumibile dal capitale, non sottoponibile alle logiche di normazione e di valorizzazione del capitale. Poi alla fine loro, nei loro simboletti, c'è il disco volante. D'altro canto, che cosa fai? Come lo rappresenti l'UFO? Che fai? Una macchia di colore? Non puoi fare una luce, esatto, non si può fare. Quindi, diciamo, in qualche modo, quando devi darne una rappresentazione, lo devi alfabetizzare, devi creare un lessico comprensibile e finisci nelle trappole del capitale. Esatto. Avrebbero dovuto probabilmente anche gli ufologi radicali inventarsi un oggetto, un simbolo astratto. Esatto, che poi tutti avrebbero detto: ma che è sta cosa? E quindi meglio dire: questo è un disco volante, ma in realtà non è un disco volante, è un UFO, perché l'UFO non è sussumibile al disco volante. E quindi iniziare questa pappardella di roba assolutamente 20 minuti. Esatto, difficile per spiegare delle scelte che sono, ahimè, inevitabili e a volte, beh, diciamo, comunque tutta la rivoluzione sul linguaggio è una cosa che prima o poi andrà fatta, che in parte viene fatta. Ma perché stiamo scivolando verso gli UFO? Beh, perché in realtà dopo gli anni 90, in cui l'UFO già radicale nasce, e lì rimando di nuovo alla rivista, al primo articolo sull'ufociclismo, quindi dove nasce anche l'ufologia radicale degli anni 90, in cui c'è questo riemergere molto forte del fenomeno UFO dopo gli anni 60 e 70, che avevano visto proprio l'apice, no, di questi anni 50, soprattutto negli Stati Uniti, ma anni 60 e 70 anche in Italia e in Europa. Beh, l'UFO sta tornando. Questa è la nuova notizia. Sta tornando, ma stanno tornando gli UFO di destra. D'altro canto, il parallelismo è questo, cioè l'ufologia radicale ha un po' fatto quello che una rivista come Un'ambigua Utopia di Milano del 77, l'abbiamo citata, sì. Capitanata ma sì, vabbè, insomma, diciamo, da Antonio Caronia, non solo da solo, non era solo, insomma, diciamo, il personaggio che è più emerso da quella situazione, che poi in fondo era un situazionista appoggiato a Potere Operaio, Antonio Caronia, che poi diventerà più famoso come traduttore di libri di fantascienza e come critico cyberpunk milanese, morto ma un po' di anni fa, insomma, una grande perdita dal punto di vista intellettuale. E anche loro fecero questa battaglia di sottrazione del fenomeno della fantascienza da quelle che erano le grinfie della destra. Di questo ne abbiamo già parlato, no? Ne abbiamo parlato del fatto che i primi politicamente a mettere le mani sulla fantascienza è stata la destra in Italia, così come oggi hanno le mani molto spesso sul fantasy, diciamo, sì. No, in Italia Il Signore degli Anelli ha delle venature di destra che nessun altro paese del mondo ha, perché c'è sì, una colorazione, una egemonizzazione del discorso che loro hanno saputo fare, evidentemente la sinistra in quel caso un po' meno, anche se sta cercando di mettersi in pari più o meno consapevolmente. Molto consapevolmente in realtà, perché ci sono l'Istituto di Studi Tolkieniani Italiani è tutt'altro che di destra. Ok, no, non sapevo. Sì, io sono così lontano dal fantasy che insomma. Io no. Lo disprezzo e basta. Quindi, la mia attività è uno dei miei segreti luridi. Cioè, vabbè, sei un nerd di quelli totale. Bimiani. E questa sottrazione del fenomeno, della procurazione fantascientifica, a prescindere poi da quelli che erano gli autori, se erano autori di destra o di sinistra, della fantascienza in quanto fenomeno sociologico, addirittura del presente e del futuro, era stata fatta. L'Urologia Radicale fece la stessa cosa col fenomeno UFO, perché il fenomeno UFO in realtà, attraverso, per esempio, anche le istituzioni italiane tipo il CUN e il CISO, che sono le più grandi organizzazioni ufologiche nazionali, non sono proprio di destra, ma insomma hanno politiche di destra, perché in realtà consigliano, per esempio, a chi fa avvistamenti di rivolgersi ai carabinieri, quindi intrattengono rapporti stretti con l'aeronautica militare, insomma, con gli sbirri, insomma, sono comunque le destra che vuoi dire. Vabbè, insomma, questo per dire perché dicevo appunto potremmo avere una nuova invasione di UFO di destra, perché il 25 giugno del 21, quindi pochi mesi fa, esce questo che è conosciuto in maniera un po', volgare come rapporto UFO del Pentagono, che in realtà è proprio un rapporto UFO del Pentagono in cui commissionato dall'allora presidente, da Biden, e praticamente si parla, intanto si cambia nome alla parola UFO. Gli UFO non esistono, e questo, io sono molto figlio di questo, perché adesso l'UFO si può dire che la parola UFO è antagonista, mentre la parola UAP, cioè Unidentified Aerial Phenomena, è il nuovo modo scientifico che ha deciso il Pentagono si adotti per parlare del fenomeno, di quello che prima veniva chiamato UFO, e ne stila anche un rapporto. Quindi non è più un oggetto. Non è un fenomeno. È un fenomeno atmosferico. Però non è più l'oggetto, però questo rapporto in realtà inserisce degli elementi nuovi, importanti, perché si dà molta importanza a quello che è il fenomeno. Si consiglia un'investigazione molto molto più accurata. Non si parla di extraterrestri, si dice che probabilmente si tratta o di tecnologie straniere o di fenomeni naturali, però sottolinea il fatto che nell'uno o nell'altro caso si tratta di fenomeni capaci di contravvenire alle leggi fisiche. Quindi questo è molto interessante. Beh, certo. Perché anche se fosse un fenomeno naturale, in qualche modo i fenomeni naturali non possono contravvenire alle leggi fisiche, invece dall'osservazione. Questo in teoria niente può contravvenire. In teoria, appunto, almeno nella dimensione locale dello spazio che conosciamo, niente dovrebbe contravvenire. Poi, se stendiamo al principio di uniformità, addirittura tutto l'universo. E cosa molto interessante secondo me, perché introduce questo aspetto appunto della possibilità di contravvenire alle leggi della fisica. Il 15 dicembre del 21, proprio sulla intanto il rapporto del 25 giugno avviene dopo la pubblicazione da parte della Marina statunitense di qualche mese fa dei famosi video sugli UFO presi dai caccia statunitensi. Cosa abbastanza innovativa da questo punto di vista, anche la loro pubblicizzazione. Pochi mesi dopo il rapporto UFO del Pentagono, la senatrice Kirsten Gillibrand dei Democratici, in realtà, rafforza questo tipo di attenzione posta dal Pentagono sul fenomeno, istituendo una commissione pagata con un sacco di sugli zombie. No, no, no, no, per indagare sugli UFO. E in questa avvertenza della senatrice si sottolinea il fatto che non va sottovalutata la possibilità che si tratti di oggetti volanti non identificati di origine extraterrestre. Quindi l'extraterrestre, l'UFO, entra ufficialmente oggi da oggi in poi dal giugno del 21, del dicembre del 21, nell'investigazione vera e propria del Pentagono. Quindi ci possiamo immaginare un'invasione, la prossima invasione di UFO da parte della destra. Perché? Perché la spiegazione di questo interessamento potrebbe essere sia legato all'estensione del fenomeno UFO a quelle che sono le teorie del complotto dell'alt-right, che oggi sono uno dei cavalli di battaglia della destra della destra emergente, della nuova destra americana e anche europea. Questo potrebbe di essere conseguenza. Sì. Ma l'altra, dal punto di vista che forse a noi ci interessa di più, potrebbe essere la creazione di un nemico generico da parte degli Stati Uniti, adesso nella dimensione extraatmosferica, nel momento in cui ci sia pronta ad affrontarla economicamente e militarmente in una maniera molto più seria. Il modo per esportare armi nello spazio extraterrestre per motivarla ai contribuenti potrebbe essere proprio quella creare un nemico non identificato, ma un nemico possibile, una pressione psicologica che ci porterà, oltre alla decifrazione e alla creazione di leggi ad hoc di cui abbiamo parlato nelle altre puntate per quello che riguarda lo spazio extraatmosferico e la sua economia, ma alla difesa anche militare dello spazio extraatmosferico. E l'UFO potrebbe essere uno dei vettori filosofici, politici e diciamo di consenso che faranno sì che per esempio si aumentino le spese per le armi per la sezione spazio del Pentagono e NASA, anche magari legata allo spazio. E dicevo prima, quindi fenomeno UFO che in realtà prima l'accennavo, il fatto che il CUN, per ad esempio Centro Ufologico Nazionale, che per tanto tempo adesso un po' caduto in disgrazia, ma insomma è stato un organismo importante dell'ufologia italiana, Emir, gli ufologi radicali su questo si sono molto spesso arrabbiati e hanno usato invettive contro proprio perché consigliavano agli avvistatori di UFO di rivolgersi ai carabinieri. E io ti faccio sentire una citazione che però poi motiveremo. Ma stai cercando i marziani a casa mia? Comunque, se vedete un individuo sospetto, avvertite in caserma. Sì, va là. Se trovo un marziano lo mando proprio voi altri, E questa era una dissidente del CUN. Esatto, sì, questa era un'ufologa radicale. Nella fattispecie era, basta con questo check verde, era Silvana Mangano, che fa una parte bellissima nel famoso film che ci diamo sempre, che sarà nel nostro cineforum. Dillo tu. Il disco volante di Tinto Brass. Ah, è giusto, è vero, lui, è vero. I pochi, insomma, quando si parla di dischi volanti conflittuali c'è sempre in mezzo il Tinto Brass degli anni 60. Esatto. Il Tinto Brass degli anni d'oro. Esatto. E beh, insomma, è la risposta che il popolo dà al CUN. Io dovrei avvisare te, ma va là. Esatto. E beh, insomma, diciamo, ultima notizia interessante dal punto di vista ufologico e quindi forse della prossima ondata UFO a cui ci toccherà assistere, questa che tu anche avrai sentito, i teologi chiamati dalla NASA a cercare di spiegare, a dare una spiegazione del fatto che possano esistere forme di vita. Questo, la fantascienza ha molto battuto questo tema. Cosa succede nei momenti esatto. in cui esatto. si scopre una forma di vita aliena? È una cosa ricorrente, tra l'altro via la Bibbia? Tra l'altro lo stesso Spielberg negli anni 70-80, quando fece il suo Incontri della vicenda del terzo tipo, fu accusato di essere una sorta di propagatore del messaggio che da lì a poco si sarebbe giunti a un contatto con gli alieni, e che quindi lui con i suoi film ci preparava bonariamente a questo tipo di contatto. E questa notizia dei teologi assunti, questo team di teologi assunti dalla NASA per dare risposta a questa annosa domanda: cosa accadrà quando finalmente ci diranno che esistono altre forme di vita, ha fatto riscattare la molla nella testa di molti ufologi, molti interessati a questo tipo di argomenti. Ma di fatto, insomma, ci sta. Sono argomenti interessanti e ci sta nella... Chissà Ratzinger se ha un'opinione. Ah, perché proprio Ratzinger? Non lo so. Perché è più scientifico dei due. È il più in questa diaspora, cattolica che stiamo vivendo e di cui nessuno si è accorto. Abbiamo due papi. Esatto. Ce n'è uno più scientifico e ce n'è uno un po' più meno scientifico. Sì, un po' più populista. Sì, uno più simpatico. Sì, diciamo, un po' in parte. Quindi ci chiediamo. Uno ci prova, l'altro no. Esatto, ci chiediamo. chiediamo di quello più scientifico che cosa direbbe del fenomeno. Del fenomeno. Vabbè, insomma, abbiamo fatto una carrellata. Si è proposto per fare parte della, del team? Del team, ce lo vedo lui. No, nel team. Ma non so cosa gli sia successo. Ha pure rinunciato. No, lui ha diciamo altri problemi in questo momento. Sembra siamo molti fuori. Ne faremo una puntata? No, perché non è proprio il tema della trasmissione. Diciamo. Vabbè, era una provocazione. Io ti mando un brano così per alleggerire su Ratzinger, che la cosa si sta facendo un po' pesante. Больше не могу, вот уже который день не могу их найти. Все ищу, да ищу, не понимаю, куда могли деться. Где же мои мозги? Где же мои мозги? Что же мне делать? Придется жить без них, адаптироваться. Как это так? Sempre Boca Chica Cosmodrome, tagliamo questo brano che a me piace tantissimo, anche è a te prima sta piacendo. Sì, loro sono i Top Mountain, li abbiamo sentiti una qualche trasmissione fa con un'altra formazione che erano i Trotsky Nautique. Sempre loro. Sì, bellissimi, francesi, lo fai con questi strumenti, la cantante, diciamo, un approccio internazionale. Il brano si chiama My Mask, non so che cosa significhi, che è una lingua che non conosco, non so da dove proviene. Sulla base di questa impreparazione totale, di un gruppo che amo. Però il pezzo è bello stesso. Il pezzo è bello. Sulla base di questa impreparazione totale ci avviamo verso la chiusura. E come nostro consueto appuntamento e garanzia di trasmissione, facciamo una piccola preview su quello che accadrà la prossima puntata. Urca, tu hai già un orizzonte temporale così. Te ne parlavo prima, ma infatti non mi hai dato una risposta. Io nella prossima puntata parlerei di capitalismo spaziale, tanto per fare, ma no. e di mutamenti geofisici sulla Terra. Ah, certo, ovvero come sì, me l'avevi detto. L'avevo detto. Come il capitalismo spaziale sta cambiando la vita di tutti i giorni, che questo dovrebbe essere un po' il filo conduttore, certo, della nostra visione, anzi lo è stato, forse oggi un po' meno, ma insomma sì, in generale. Sì, beh, quello con la riutilizzabilità. Sì, ci siamo ripresi un po' verso la fine. Guarda, paradossalmente, ecco, voglio dire sta cosa brutta, che tendenzialmente penso che quando noi facciamo questa distinzione tra cosmo capitalisti e cosmo anticapitalisti e dobbiamo parlare di qualcosa che incide più nella vita quotidiana, forse è più il versante cosmo capitalista che incide sulla vita quotidiana. Questo è grave, è uno dei problemi, è un problema piuttosto serio ed è anche, come dicevamo, una delle ragioni di questa trasmissione. È vero, ma fossimo arrivati con questa affermazione finalmente al senso di questa trasmissione, chissà. Vero, no? Quindi chiudiamo questa presa di coscienza. Vabbè, no, allora, come cambia la nostra vita? Ma questa volta risponderemo piuttosto a come cambia il nostro pianeta. Sì. Cioè, nell'ottica, prendiamoci ancora un minuto per spiegare questa cosa. Oggi avevamo detto, finiamo un po' prima, stiamo sballando completamente con i tempi. Ogni modo di produzione cambia l'ambiente nel quale viviamo. D'altro canto, la new economy delle reti l'ha cambiato perché ci ha virtualizzati, se ci pensi, no? Così come il capitalismo della prima e della seconda rivoluzione industriale ha creato la città moderna che ha completamente cambiato il nostro territorio. Tra l'altro il capitalismo delle reti si appresta a creare uno spazio, diciamo, chiamiamolo virtuale perché, per capirci velocemente, quindi a creare uno spazio oltre a averne modificato un altro. Beh, sì, diciamo, le cose non spariscono. Non è che la città sparirà perché c'è la virtualità, certo. C'è una sovrapposizione di strati, di layer, che fondamentalmente è il risultato di trasformazioni continue di quello che è il modo di produzione, che rimane sempre lo stesso, si trasforma e con le sue trasformazioni, le prime due cose che si trasformano da una parte sono l'ambiente e dall'altra la forza lavoro, intercambiabilmente. Poi non è che sono due cose separate, noi la forza lavoro, certo, è parte stessa dell'ambiente, però, certo, le possiamo da un punto di vista analitico porre su due livelli diversi e dire cambia il nostro mondo perché cambiano le esigenze e le priorità del modo di produzione e poi cambia cambia la forza, la forza lavoro. Nella prossima puntata vedremo come cambia il mondo, cioè come cambia proprio l'ambiente geofisicamente. Un po' dovremo studiare, secondo me, alcune cose. E come anche inconsciamente non ci stiamo preparando a vivere queste trasformazioni. Non ci stiamo? Ci stiamo, in realtà. Se avevi detto non ci stiamo, no. Era polimicuccia. No, non è polimicuccia. Io dico polimicuccia, ma sempre. Forse è più polemico il ci stiamo perché inconsciamente. Quindi ci adattiamo. Ci stiamo adattando e non sappiamo che lo stiamo facendo. Ha ragione. Io la prossima puntata mi fermerei proprio agli aspetti, come dicevo, geofisici. Cioè, proprio. Vabbè, buttiamola un po' lì. Ha una reinterpretazione in chiave cosmocapitalista dell'antropocene. Se sei d'accordo. Urca, sì, per forza. Facciamo così. Quindi vi lasciamo su questo incredibile tema. Come sempre, al nostro solito, una piccola citazione. Ritorniamo, saluti, brano e poi prossima puntata. Di seguito. C'è stanno le strisce, me volete fermare? Ma l'anima dei mortacci vostri. C'è stanno le strisce, me volete fermare? Ma io dico, invece di chiedere alle altre nazioni di darsi un volto umano, ci volemo cominciare a cambiare il nostro, che abbiamo trasformato il cuore di una città storica in un carosello infernale per le macchine da Gianni Agnelli. E siamo tornati un po' all'inizio della puntata. Questo era Mastroianni. In mezzo, sai di che film parliamo? No. C'eravamo tanti amati. Io allora l'ho messa questa citazione prima di sapere che la Monica Vitti era morta. In realtà è un film in cui c'è Giannini e Monica Vitti, quindi la citazione ci stava tutto con l'inizio della puntata, perché lui si ritrova in questa strada, le macchine non lo fanno passare, lo investono e fa questo monologo breve. E non è in bicicletta, è a piedi. Un psicogioco, un fucicrista. Quello classico, sì. Guardate quello film perché è bellissimo, c'eravamo tanto. No, mi sto sbagliando, scusa. No, Dramma della gelosia. E spesso mi confondo perché sono tutte e due dello stesso regista, di cui non mi ricordo il nome, ma in realtà C'eravamo tante volte è molto più bello. Dramma della gelosia è bellissimo, però C'eravamo tante, però sono film che si assomigliano, tutte una storia, una commedia bellissima fatta molto bene che attraversa. E a un certo punto Mastroianni va sotto una macchina. No, Mastroianni impazzisce, viene chiuso. Il dramma della gelosia è molto molto molto bello, e poi un saluto a Monica Vitti lì dove lo si volesse fare. E vi ricordiamo il nostro canale Telegram @ Boca Chica Cosmodrome su Telegram, e vi ricordiamo il sito di Forte Prenestino, forteprenestino.net, dove trovate tutte le attività del Forte Prenestino, trovate tutto la radio, quindi Radio Forte, trovate i podcast di Boca Chica Cosmodrome, ma anche delle bellissime trasmissioni che avvengono quotidianamente qui sulla radio. Sì. Tra l'altro prossima domenica ci sarà il Terra Terra, credo che ci sarà uno speciale della radio, adesso non vorrei dire cose sbagliate, ma ci dovrebbe essere uno speciale della radio in collaborazione con Radio Onda Rossa, non ve lo perdete, un controfestival, penso di aver capito, quindi assolutamente seguite tutte le attività del Forte, perché insomma in parte del Forte si traduce anche in alcune cose che vengono dette qui della radio, ma sicuramente il Forte è un organismo molto più grosso e pieno di risorse, quindi venite al Forte, vivetelo e fatelo vivere. E podcast l'abbiamo ricordato, ricordiamo che chi si iscrive vince anche il bellissimo adesivo di Andromalis, esatto. A patto di venirselo a prendere. Per forza. Io credo noi non ve lo portiamo. Non ve lo portiamo. A questo punto io credo che abbiamo veramente finito, sforando di 5 minuti, perché ci siamo. E Bimo, non siamo riusciti a mettere tutti i pezzi musicali stasera. Allora, ne abbiamo per la prossima. Allora, quello che io con cui chiudo, lo devo prima annunciare perché poi sennò dobbiamo rientrare in diretta, è un pezzo tratto dalla colonna sonora di un bellissimo. Abbiamo parlato tanto di Stalker stasera, ma film di fantascienza sovietica bellissimi ce ne stanno tanti. C'è tutto il versante cinema di fantascienza per ragazzi, che è bellissimo, su internet si trovano alcune cose. Il film che io vi consiglio di vedervi assolutamente è Per Aspera ad Astra. Sì, film russo degli anni 80. Sì, che mi hai già fatto vedere. Ma l'hai visto? Me l'hai fatto vedere dei pezzi. Beh, va bene, lo trovate sottotitolato. Non è mai stato in realtà doppiato in italiano, ma è sottotitolato non in italiano, in inglese in realtà. Però insomma, beh, è un inglese molto comprensibile. Il film è bellissimo, Per Aspera ad Astra. Io chiuderei con un pezzo della loro colonna sonora in cui si sentono dei sintoni russi sovietici. Dei Polyvox fantastici, che mi sembra una degna chiusura di questa puntata fatta sul filo del rasoio delle culture cosmo anticapitaliste. E come al solito, grazie al forte per, perché senza il forte non saremo qui, certo. Grazie a chi ci ascolta, contattateci su contattateci basta. Su Telegram e buonanotte, a mercoledì prossimo. Buonanotte.